Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti e bentornati, amici miei, signori miei, sono le 14:34 primi e 44 secondi, Voice Anatomy, qui ai microfoni di Radio 24 da Roma, il vostro Pino Insegno, e apriamo subito con una bella telefonata, con una bella vociaccia di un grandissimo cantante, un gran poeta, come ha detto l'ospite al mio fianco, e dopo ormai l'avete scoperto tramite tutti i messaggi nei social, però insomma ce lo spizziamo come al poker. Allora, pronto? Pronto. Chi sei? Da dove chiami? Chi sei? Allora, prima non ho chiamato io, ma avete chiamato voi. Non essere così, io pensavo di giocare un po', fammi fare bella figura. Come no, ti chiami? Guarda, io sono Schietto perché sono toscano. Esatto. Quindi ti dico quello che è successo. L'importante è non mi dici il titolo. Avete chiamato voi? Sì. No, non te lo dico. Il titolo di una canzone tua, mi dispiacerebbe prendermelo di primo pomeriggio, insomma. No, assolutamente. Te l'ho già detto in altre occasioni. Grazie. Marco Masini, uno degli amici migliori che ho. Marco, ci tenevo tantissimo, a parte l'amicizia, la grande stima, e non vedo l'ora che vieni a presentare l'album. Quando sarà pronto questo signor CD? Sarà pronto l'anno prossimo, i primi dell'anno prossimo. Stiamo registrando, siamo in studio, siamo in fase diciamo creativo, di ultimazione, però sì, una via di mezzo tra le ultime cose che comunque arrivano poi sempre un po' alla fine e quello che abbiamo già scritto, che abbiamo già diciamo completato in un anno e mezzo, un anno e 6-7 mesi, perché comunque fare un album è difficile anche e soprattutto quando vieni da tanti anni di musica e quindi ti devi in qualche maniera guardare intorno, certo, e capire i parametri nuovi che sono quelli della musica di adesso, quindi devi essere allineato, no? Anche se hai uno zoccolo duro importante, io lo so, insomma, si sa, c'è un pubblico che non ti ha mai abbandonato, che ti accompagna, e sono tanti, però è giusto avere un occhio anche ai nuovi, anche a quelli che si affacciano. Sì, no, ma al di là di questo, e ringrazio ovviamente, ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno seguito il mio percorso, ma al di là di questo è il fatto di portare rispetto alla musica stessa, perché se la musica cambia vuol dire che c'è un percorso di evoluzione che chiunque faccia musica deve rispettare. Oggi sì, è una domenica senza calcio, per cui stiamo tranquilli, Marco? Sì. Stiamo sereni, io sto tranquillo. Stasera c'è l'Italia. Stasera siamo tutti. Ed è brutto dire quando c'è l'Italia la domenica senza calcio, se ci pensi. No, è vero. Quasi che abbiamo un po' perso il nostro, la nostra passione, il nostro amore, però forse è una cosa abbastanza comune nei tifosi italiani, aver perso un po' questo attaccamento alla nazionale. Sì, ogni tanto la fidelizzazione manca, sì, è vero. L'ho notato in soprattutto quelli magari più giovani che sono affezionatissimi alla squadra di club e poi invece lasciano perdere quando c'è una partita dell'Italia. E questo è forse colpa del calcio italiano stesso. Delle varie giochi di potere dei club, sì, ma sì, poi gli decisioni, sì, che poi ci hanno portato ad avere pochissimi giocatori italiani oppure quelli che ci sono stanno in panchina, quindi questo, esatto, forse ci allontana un po' dalla passione del calcio. Vabbè, io tanto sono del Manchester United come tifoso, sì, per cui non vivo la vostra realtà, la vostra ansia. Sì, non ricordo una maglia rossa della tua squadra del cuore, però no, però la faccia rossa da ricordi dopo le partite, sì, sicuramente la mia c'è sempre, è così. Marco, sì, ti dicevo, mi piaceva molto questo binomio in apertura con te, che oltre ad essere veramente una cara persona, sei veramente un gran professionista, ma veramente, come ti ha nominato poco fa, senza saperlo, l'ospite di questa puntata, che è, signori, Luca Ward. Benvenuto, Luca. Grazie, ciao a tutti, ciao Marco. Eccolo. Ciao Luca, ciao. Ti ha detto che eri un gran poeta, ed è giusto, è veramente un poeta. È un poeta, lui dice delle cose. Io ho un ricordo di te, Marco, qualche anno fa, a Sharm el Sheikh, eravamo lì con Radio Italia, ti ricordi? A Sharm el Sheikh. E la cosa straordinaria che ho sempre ammirato in te sono i messaggi che porti, che oggi nella musica, purtroppo, come tu sai bene, i messaggi sono pochissimi, anzi forse quasi nulla. E invece, leggendo, più che ascoltandole, io a volte me le sono proprio letti i tuoi testi, sono messaggi straordinari, chiari, che aprono la mente, che fanno riflettere, che fanno pensare, che è quello che dovrebbero fare, insomma, in linea di massima, i cantanti, perché poi sono dei messaggeri. Certo, una critica con sta voce non è male, Marco Lì, dai. Potrei pure dire che era brutto. Adoro la voce di Luca. Grazie, Marco. E ricambio, ricambio la stima, ma è vero, cioè ha detto alcune cose vere, cioè che la musica sta andando in direzioni diverse, però io credo che ancora ci siano questi messaggi. Io ho lanciato nei messaggi nella mia, all'inizio della mia carriera, all'inizio del mio percorso, perché riguardavano un momento generazionale, un momento di confusione, perché all'inizio degli anni 90 si stavano perdendo tanti valori, si stava perdendo l'idea politica, l'idea sociale, si stavano perdendo tante porte da scegliere. Invece oggi forse la musica si sta adagiando su qualcosa di più leggero, anche perché si consuma molto più rapidamente, quindi le cose che magari possono avere un impegno maggiore sono di difficile vendibilità. È vero, tu pensa poi una tua canzone cantata da te, perché tu sei un grande interprete, e recitata da Luca. Detto, bello. Non sarebbe male. Bellissimo, un duetto quando fantastico. Sei disperato come me senza te. Io ho chiesto un attimo un sottofondo carino di una delle tue splendide canzoni, tanto il primo blocco va così, con voi due mi piace molto sottolineare questa grande professionalità che vi lega, perché ognuno nel suo campo è veramente intento a soddisfare non soltanto se stesso, assolutamente, come normalmente uno viene preso da se stesso, ma cercare, come hai detto tu fino adesso, di accontentare, una parola che non c'entra niente, ma di dare soddisfazione agli altri con delle cose che hanno un senso profondo. Che bella questa canzone. Te la ricordi, Marco? Ti senti? La sento bassa, perché già poi alzala un po'. L'età, è vero. Mi ha procurato calo alla vista e calo al dito. Non voglio sapere ovviamente cos'altro, Marco, non mi interessa, no. Fortunatamente questo. Diciamo che dei cali dalla vita in su, va bene. Esatto. Marco, non ti disturbo oltre, perché so che stai anche finendo di pranzare ed è stato un regalo carino che mi hai fatto. Figurati, anche lì bisogna stare leggeri. So che eri stato in palestra, vabbè, questo però non bisogna dirlo, di domenica in palestra. Vabbè, volevi dire, Marco? No, volevo dire che vi ringrazio e comunque, al di là di tutto, credo che ci siano ancora, se non sembra di aver generalizzato, credo ci siano ancora dei grandi messaggi di cantautori italiani. Da Jovanotti a Ligabue a Tiziano Ferro, io credo che comunque la musica italiana abbia ancora, come succedeva magari in passato, ci sono ancora quelle ci sono ancora parole da conservare, parole che domani avranno un significato storico, e grazie anche al grande talento di persone che hanno studiato il proprio percorso e l'hanno analizzato, l'hanno evoluto e hanno continuato, allineandosi con la realtà, a lanciare questi messaggi. Ce ne sono tanti ancora in Italia e spero che questa cosa continui per salvare appunto il cantautorato. Che bello, va bene, Marco, grazie, buona domenica. Grazie a voi. Buon proseguimento di vita, buon album. Ciao. Ci sentiamo presto. Grazie. Un abbraccio. Gli accendini sopra le teste, ci vorrebbe il mare. Era Marco Masini, è qui l'ospite di questa domenica insieme, almeno per la prima parte, insieme con Luca Ward. Tu canti, Luca? Tu canti. Io so. Canto. No, vabbè. Oddio, con la vocetta ci faccio cascare. Ci fermiamo un attimo prima che la gente capisca se veramente uno canta o no? No, dai. Io canto, no. Tu fai musical, amico mio, ma che dici? Sì, lo so, ma lì mi doppia Ranieri. Ah, eccolo. Cioè, Ranieri entra, infatti dico, l'ammazza forte, Ward, sembra Ranieri. Cazzo, sembra Massimo Ranieri. Sei momenti, è vero, quando non dovevi cantarsi e bruciarsi la città, mai farleti, lì hai sbagliato, lì sei capito. Vabbè, ragazzi. Lì sei capito. Tu sei in giro con Tutti Insieme appassionatamente. Finito. No, abbiamo chiuso, archiviato, stiamo preparando, credo, per la prossima stagione, quindi si parla 2017-2018, Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Jekyll and Hyde, quello americano? Quello americano, bellissimo. This is the moment? Più o meno, sì. Cavolo, ma scusate la pausa, che radiofonicamente è veramente una cosa brutta, ma volete sapere che Jekyll and Hyde è uno dei più bei musical degli ultimi 20 anni, perché è molto europeo. Difficile, con delle hit all'interno, sì, pazzesche. Ma in inglese o in italiano? No, ma che in inglese, io sono malapena parli italiano, no. Parli in inglese. No, le canzoni stiamo decidendo se lasciarle in inglese oppure tradurle in italiano. No, se fai in italiano, in effetti, però questo è il momento. Bisogna però purtroppo far capire. C'è un momento in cui lui canta da solo, fa sì. Jekyll and Hyde alla fine e litiga con se stesso. Fantastico. Luca, ma la cosa più bella te vengo lì, mi prego insieme a te, perché è un momento lì rischi veramente tutto. So, sì ma infatti io ho comunque il cover, c'ho Ranieri, no, lì sarebbe meglio Renatino Zero, secondo me è Renato. Se fai Jekyll, Renato e Ranieri, tu parlato italiano, esatto, e vai. Allora, ci siamo, il primo blocco è finito, ma sapete che Voice Anatomy è appena cominciata, tra poco con Luca Ward. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy. Stiamo ancora parlando, per chi ci sta seguendo in diretta anche lo streaming su Facebook, stavamo continuando a parlare di questo musical straordinario che è Jekyll and Hyde, la difficoltà di affrontare, ma sono belle scommesse da attore, è giusto che sia così. Ma sì, ma anche perché sennò ci si annoia. Esatto, fine, no? Sì, ma così rischi veramente. Vabbè, se devo cascare, casca. No, grande. No, di cascare, rischi veramente, non la noia, l'ipertensione vera per lì dentro. Però è bello, sono spettacoli, guarda, credimi. Lei chi è? Lei la... Non si sa niente. Tu dici, io con una parrucca non posso fare. Ce potremmo provare. Che dici, Lu? Pinotti, devo strizzarti. Sì, un pochino. No? Un nuovo Jekyll, un nuovo Hyde. Non lo so, non sappiamo ancora nulla, in effetti. Però questi musical grandi, da My Fair Lady, Tutti Insieme appassionatamente, ti danno quella sensazione bestiale del teatro pieno, di tanta sì. gente, di della potenza che poi hanno certi popolare, spettacoli, certo. Perché sono popolari, sono straconosciuti, con la certo. gente che canta poi in sala con te le canzoni. E poi giustamente tu dici, quelli sono musical conosciuti dalla persona anche in italiano, per cui cantare sì. le canzoni in italiano non è mancare di rispetto alla storia, come Mary Poppins, uno se deve fare quel musical deve cantare in italiano. Per forza sono quelle... devo cantare in inglese, esatto. Dice che sta a dire questo? Esatto, un'altra cosa, cincirimin, cincirimin, capito? No, spazzacamino, non si può sentire. No. Invece Jekyll and Hyde, gran coraggio veramente, perché è meraviglioso, bello. Speriamo bene, è un progetto ambizioso. Per guarda. Portarlo in scena non è facile, no, ci bello. Vogliono insomma un sacco di soldi, sforzi produttivi giganteschi. No, lasciamo guardiamo l'altro. Poi il teatro è come il delitto, non paga, insomma, no, si paga. Sa. No, il, paga a livello emozionale. Sì, bisognerebbe, ecco, il teatro c'ha il problema adesso che fra qualche anno ci troveremo senza pubblico. Perché? Perché c'è un pubblico grande. Sì, i giovani non sono aiutati, non li portiamo a teatro, non vanno a teatro. Se vai al sud, ecco, quando cadi, che ne so, Napoli, Palermo, Catania, allora trovi i ragazzi, ma da Roma in su i ragazzi missing, chi li conosce? Sì, a meno che non ci sia quel musical nazional popolare giornalista. Vabbè, ma è difficile anche in quel caso. Ma perché non aiutano noi alla produzione, o i produttori non sono aiutati, ogni sera se ne va via più del 60% fra tasse, SIA e quant'altro, insomma. Sì, per carità. Ma perché le persone magari che ascoltano non sanno che la vita del teatro è veramente complessa, tutti si aspettano, è pieno il teatro, chissà che cosa hai fatto. No, andiamo a fare i conti, non no, è così, non è così, però la soddisfazione, tu a teatro sei nudo, sei lì, in senso metaforico, altrimenti veramente rischieremmo, almeno rischierei la ma povertà certo. del pubblico, uno nudo. Ma poi la ricchezza del teatro, la ricchezza che trova attori, cerca attori, attrici, li fa nascere, li fa vivere, li crea. Certo. Senza il teatro, cioè, di che stiamo a parlare? Come vedete, quello che ogni tanto ci dicono, l'attore o il doppiatore deve assolutamente avere una origine teatrale, un'origine artistica, ma per forza, non soltanto non... quella, se no muori come corpo. Ma infatti dicono i doppiatori, dice lei è un doppiatore, ma quale doppiatore? Io presto la mia voce ad attori, ma sono un attore che fa il doppiaggio. Esatto. Ma il doppiatore non esiste. Sì, poi si sono creati i doppiatori negli anni, fine anni 80, perché c'era tanta roba da fare. Certo. E non era semplice trovare, no, manovalanza, come si dice. Però, insomma, attore che fa doppiaggio è una cosa, il doppiatore è un'altra. Esatto, se fai soltanto quello poi rischi veramente di morire di fronte a un microfono fisicamente, perché non dai la forza mai nella voce, no. Infatti poi quando uno riesce a dare quella tridimensionalità al film è perché dietro c'è anche un corpo. È l'attore, l'attore. Il salto mortale l'attore lo fa, esatto. Glielo chiedi, quantomeno lo tenta. Quanto ci metti di Luca Ward all'interno degli altri attori? Ti viene voglia, visto che fai anche l'attore, io parlo come se facessi altro ovviamente, ma giusto così, faccio dei passi assolutamente indietro, ma quanto gli dai dentro di tu, ma quanto dipende. Vorresti? Io in Italia faccio i personaggi negativi, le iene, i cattivi, quelli che ammazzano, uccidono, stupano, minano le donne. Che... Come doppiatore? O no, come, no, attore. Come attore. Come doppiatore? Perché no. La tua voce racconta una storia a faccia magari raccontanata, che non è vero, poi non è che sei levigato dal tempo, tagliato. No, a me mi dicono c'ha la faccia cattiva, no, c'ha la faccia duro. Sono le ostia che vuoi, quello è cattivo. Sono le ostia. I cattivi non stavano a ostia. Sono de ostia, che ormai Ostia è una città vera. Adesso c'è, è. C'ha 2,5 milioni d'abitanti. Un boato d'abitanti. Ah, sei de Ostia. Sono de Ostia. Ostia Lido, clinica Villa del Lido, stanza numero 1. Grandioso. Il tuo primo vaggetto è stato. Uè. No, veramente mi hanno messo in barca. La prima cosa che ha fatto mio padre proprio subito mi ha portato in barca. Ah sì, ma sei stato salvato dalle acque. Sì, cioè, praticamente sì. Cioè, se, come se sono rotte le acque di mamma, ti hanno messo in acqua. Niente, d'acqua subito. E tu sei sceso sulla piazzetta, esatto. Lì. Fantastico. Dal pontile, mi sono attuffato. Senti un po', allora, abbiamo parlato già di futuro, normalmente si fa alla fine tutto questo, ma le camminate che si fanno con... un amico, un collega così, così bravo, sono larghe, per cui questo è il futuro. L'inizio, abbiamo preso proprio l'inizio, Ostia, la stanza della... ma lì mamma, papà, perché poi i fratelli sappiamo cosa fanno, abbiamo avuto anche ospite, sì, Monica. Papà è stato un grande attore di teatro. Papà è stato il precursore. Teatro e radio. Stato un grande precursore del doppiaggio o erro? Sì, mio padre, diciamo più forse mio nonno Carlo Romano, che era la voce di Jerry Lewis. È vero, è vero. Aspetta, fammi stupire un attimo. Cavolo, Carletto Romano era tuo nonno. Oh, beh, cioè, quelli erano dei giganti, vedi, mamma mia, Carletto Romano, tutti i vecchi, le cose, noi vecchietti, vedi, era gazzolo, ma le voci caratteristiche. Beh, Carlo, sì, Carlo pensa Romano. Che quando venne a mancare nel 74 ci fu il problema, no? Che famo, certo. Che non famo, prendiamo un imitatore. Giammai, fu proprio Jerry Lewis stesso a dire no, signori, mia. Carlo Romano è morto e la sua interpretazione deve andare via con lui. Niente imitatori, niente di tutto questo. Ecco perché spesso quando se ne va purtroppo qualche nostro grande collega, vedo commenti su internet eccetera, c'è uno che imita, no, noi non lo facciamo. Quando un artista se ne va, come per Tonino Accolla per esempio, certo, prematuramente purtroppo, e anche la sua interpretazione va via con lui, punto. Infatti Homer lo fa Massimo Lopez, sì, in un modo completamente diverso. È inutile che sono tutti arrabbiati, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così, sì. In effetti la differenza che ho sempre cercato di capire fra il passato e il presente del doppiaggio, degli attori che facevano doppiaggio, secondo me era la grande personalità che avevano loro. Potevano fare 5-6 ruoli, 5-6 attori con la stessa voce, ma vincevano. Mentre adesso forse c'è più tecnica in tutto questo, levato Peppino Rinaldi, che riusciva ad avere tutte e due. Tu, che differenze noti fra la voce di una volta e le voci di adesso? Beh, intanto noi un tempo avevamo più tempo, scusate il gioco di parole. Sì, per fare un film, prendo per esempio Pulp Fiction, ok? È un film del 94, non è che stiamo parlando di 100 anni fa. 94, sì, sono parecchi anni indietro, ma all'epoca era Cecchi Gori che ci disse proprio prendetevi il tempo che volete, perché il film è veramente difficile, veramente complesso e quasi indoppiabile. Oggi un film lo realizziamo in pochissimi giorni. Sì, una settimana. Non abbiamo neanche il tempo di capire. Anzi, quando abbiamo capito che forse abbiamo fatto un errore, siamo già in onda, no? Siamo già nelle sale. Non c'è tempo di ritornarci. E non quindi... c'è tempo neanche di andare avanti a questo blocco. Andiamo avanti fra poco. Andiamo, rimani ancora poco. Un altro paio di blocchi insieme a me. Non ti muovi, sei bloccato lì. Sono bloccato. Restate con noi, 14:55 e 49 secondi. Voice Anatomy, a tra pochissimo. Voice Anatomy. E come sempre bentornati, Voice Anatomy, Luca Ward al mio fianco. Non ho letto tantissimi messaggi perché con Luca in effetti si aprono dei link e vanno esplorati. Qui se il mio insegnante di matematica avesse la voce di Luca, penso che potrei sforzarmi di capire meglio la materia, dice Teresa. Che goduria sentirvi parlare non impostati, questo è il più bel complimento. Adoro i piccoli teatri, Luca, perché non fai anche tu da solo una cosa in un piccolo teatro? Vabbè, benissimo. Why not? I complimenti ai gladiatori, eccetera, eccetera. Ma non ha doppiato anche Edoardo Palomo in Cuore Selvaggio? Come no? Vedi che sono attenti, io non lo sapevo. Sono salvaje. Grande. Lì è stato veramente fantastico. Bravo Luca, ciao a tutti e due da Giulia da Chiavari. E un'altra persona, fra tanti ancora complimenti, è chi è il tuo ospite? Ha una voce bellissima. Ma ci sta, ci sta, questo ci sta, piace. Ci, sta piace, ci sta anche questo. Abbiamo parlato di tuo nonno Carlo Romano, Carletto Romano, e Alessandro, che io saluto, e Gaia dall'altra parte, Alessia Navarro e Mauro Meconi, che è anche alle riprese, ormai si autocita. Sentiamo un pezzetto di Carletto Romano, perché così magari qualcuno viene rinfrescata la memoria. Basta, basta. Grazie figlioli, siete tutti dei ragazzini e delle ragazzine molto gentili. E se starete buoni, domani sera può darsi che vi dia un'altra razione del mio raro talento. Adesso tornate ai vostri posti. Su, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Via, via, via. Le folli notti del dottor Jerry Hill, che era bellissimo. Diventava bello, cioè diventava normale. Diventava normale. Jerry Lewis è diventato normale, che è un bel uomo. Sono le genialità di allora, sì. Che oltretutto perché proprio perché erano attori, gli si lasciava poi lo spazio di poter. Invece oggi ci imbrigliano, no? Un pochino, poi lo sai anche tu, no? Adesso sentiamo un contributo di Luca, ce ne stanno tanti. Io andrei anche su Hugh Grant, per esempio, perché magari uno pensa sempre Luca, Russell Crowe e Matrix e il Corvo e quello, però Hugh Grant sfugge magari qualche volta ai più, non a noi che lo sappiamo. Abbiamo un About Boy con un Hugh Grant con uno splendido Ward sopra quel corpo. Vai Will, lei è Elizabeth, prendila in braccio se vuoi. Sì, la tengo. È carina? Sì, è deliziosa, vero? Oh, sì, non è dolce. A dire la verità, Chris, sono un po' a disagio con lei. Meglio che te la riprendi. E tu che cosa fai, Will? Io? Avevo già troppe bugie da ricordare, così dissi la verità. Niente. Ah, beh, prima allora. Che vuoi dire, prima di non fare niente? Sì. Dio mio, adesso dovevo dirglielo. No, beh, in effetti il fatto è che mio padre ha scritto una canzone nel 1958, ed è una canzone piuttosto famosa, e in pratica io vivo dei diritti d'autore. E qual è questa canzone? Se ti dà da vivere, dobbiamo averla sentita. È Super Slitta di Babbo Natale. Vi prego, non la cantate. Look who's coming round the bend. It's Santa and his reindeer friends. With a ho, ho, ho and a hey, hey, hey. It's Santa's super sleigh. Chiedevo se sarei rimasto incastrato con quel ragazzino rompipalle per tutto il giorno. Bellissimo film. Bellissimo. Vedete, questo, sentite, anche questo era Luca Ward, che ovviamente è una voce con registro diverso da quello del grande eroe, perché uno sì, ha una bella voce, eccetera, ma non so, lo dico sempre, lo urlo, non è la bella voce, ma sono le belle intenzioni che fanno. Eh sì, perché film, infatti no? Qualcuno, oh, mi dicono che c'è una bella voce, ma secondo lei posso perdere il piacere? No. Dico sì, magari. Io con sto corpo allora che potevo farlo? Invece mi sono dovuto accontentare alla radio. Che quanto la tua voce ha influito? Nel senso, quando l'hai scoperta, qual è stato il tuo passaggio, come diciamo sempre qui, lo sliding doors della tua vita artistica? Ma è stato un delirio, perché in realtà io non dovevo fare questo mestiere, ne dovevo fare un alto. Ma pure fa il pilota. Quindi. Come tuo padre, che sì, è stato come convinto mio padre, da nonno. Faceva il periodo agrario, è stato convinto da Carlo, e quindi ci siamo trovati mischiati qui. E poi è vero, quando ero ragazzo e facevo gli sceneggiati della Rai. Però come attore in tu hai cominciato diretta. come attore sì, attore, a tre anni Demetrio a Canelli. Tre anni sei in pensione già da vent'anni da vent'anni. Io quando arriva dalla lettera della pensione dico ma siete sicuri? Che tristezza, dice, guarda è scaduto il tempo, quindi la tristezza da morire. Lei deve smettere. No, perché io pensavo che dovesse sì, dice no ma guardi che può continuare a lavorare, c'è uscivolo vabbè. E quindi il doppiaggio per me era un'arma impropria, non riuscivo a capire come funzionasse, era... mentre mio fratello Andrea l'aveva capito perfettamente, e Monica anche loro hanno cominciato così, io no, ero in difficoltà col doppiaggio, la pensavo in un modo e usciva in un altro. E poi un giorno, non so bene, era durante un film, mi pare Elephant Man, stavano doppiando, ero andato lì per fare il solito una battuta, due battute, bambino due. Quando abbiamo inciso c'era Pinocchi che era il direttore, c'era Maglio De Angelis al regio e Roberto Chevalier, insomma due giganti. S'accese le luci, dico che l'ha toppato, mi ho gonfiano. Toppato, e adesso mi pistano. Signor Ward, venga di qua, in regia. Sono andato là, dice, la devo mandare a casa, lo sa signor? Eh beh, certo, tanto cioè, sono la pippa, signor però Rocky, non mi menate. Dico, vabbè, ma che devo fare? No, qui c'è un problema, signor Ward. Lei deve aver capito il meccanismo, quindi non posso tenere la sua registrazione. E quindi mi ha mandato a casa. Dopo pochi giorni mi chiamarono a doppiare il mio primo protagonista. E chi era? Qual è Eric stato? Roberts, a 30 secondi dalla fine. Ecco, tu li assomigli. È un pochino così. Sì, pochino lo ricordi. Così. Grande Eric. È vero, fratello purtroppo di Giulia Roberts. È così, colpa sua. Si chiama Mario De Niro ed è il fratello di Robert De Niro. C'ha una vita disastrata. Completamente. È vero, lui è così. Per cui subito, protagonista immediato. Protagonista, grande film. E lì poi all'epoca succedevano le cose, a differenza di oggi, no? Che magari ci stanno pure questi ragazzi e fanno dei protagonisti. Certo. Cioè, sì, fila nessuno. All'epoca no, tu facevi un protagonista di quella portata, c'erano i grandi direttori che quando andavano al cinema poi la sera tornavano a casa e ti chiamavano al telefono di casa, perché all'epoca c'era questo. Dicevo, Luca, uno dei primi fu Renato Izzo, Turi. Beh. Renato Turi e Giuseppe Rinaldi. Nessuno. E nessuno. Dei bambini. Gli ultimi. Che ti chiamano a casa così. Ti ho sentito, io poi sai, di là all'altro capo del telefono, dico, oddio, ma chissà che avrò fatto. Oddio, Marlon Brando che mi è stato un gran piacere, Luca, ci sentiamo e ci vediamo presto. Ed era vero. Succedevano delle cose. Non c'erano scorciatoi, no, non c'erano le raccomandazioni. No, ma anche adesso devo dire che nel doppiaggio, tuttora devo dire che almeno questo vivi ancora. Non è che sei una bella topa. Esatto. Cioè, ieri sei stata con me, te porto, te faccio fare due turni. No, sei rovinato. È così, no, bimba, no. Prodi di una stella. Il compromesso non c'è. Non c'è questa cosa. Il doppiaggio qui. No. E dopo lì sei cresciuto, ma non hai mai smesso comunque il teatro o la televisione, lo sceneggiato? No, poi l'ho mollata un po' io la televisione, il cinema, c'è stato un periodo che l'ho proprio abbandonata, non mi sentivo adeguato, non mi sentivo pronto. Non c'era un cinema giovane all'epoca, no, adeguato? No, poi era un cinema comico, ero un po' su un'altra strada e quindi non mi vidi in un filmetto tanti anni fa che adesso è diventato un cult chewing gum, no? Come no, io me lo ricordo. Quando mandai a doppiare Biagio Proietti. Biagio Proietti, bravo, Massimo Ciavarro, no? C'era Maravenier. Sì, perché fatalità, siamo stati, tu non lo sai, ma siamo stati insieme a Venezia nelle opere prime. Io c'ho un film, è uno delle serie dei film che ho fatto io, che sono I Dimenticabili di Rete 4, che li faranno tutti insieme. E il mio era In Punta di Piedi, un film veramente una cosa brutta. Ma di quegli anni lì? Sì, no, proprio di quell'anno lì. Noi partecipavamo in concorso, come voi, a Venezia opere prime. Ma pensa. E noi ci hanno gonfiato... Non ma pure c'hanno... a noi mi sa che ci hanno confiato. No, guarda, a me mi hanno veramente fatto male. Era un film, dal mio era proprio brutto. Almeno il tuo c'aveva una coscienza di film leggero, avanzinata, diciamo, sì, di sì, un certo effetti, tipo, sì. Con attori, un gioco goliardico. Il nostro c'aveva delle pretese che non si sa. Però non voglio parlare di me, però mi hai aperto un orrore. Sei più di 30 anni fa, mamma mia, a fare quel tappeto rosso. Io sapevo che ci andavamo. Quella era Dead Man Walking, era. Era il miglio verde, non era il tappeto rosso. E così è stato. No, io dopo chewing gum ho detto no, non sono pronto, perché m'ero visto inadeguato in quel cast. Non ti piaci comico? No, non mi piaccio comico. Avevo interpretato male tutta una serie di cose che avevo visto in quel film. In realtà, rivedendolo oggi, mi dico, ma no, ma non ero così male, Porello, perché mi sono bastonato. Ti sei mortificato. Mi sono mortificato e mi sono dedicato al doppiaggio. Che attore sei? Perché il doppiaggio poi, a differenza della quando fai una parte, devi essere rapido, lo sappiamo. Entri in sala, ti raccontano la storia e tu devi entrare dentro. Ed è quella grande quando difficoltà. Quando stai a sentire, perché ma è meglio non saperla come va a finire. No, infatti è meglio non saperla. Meglio non saper niente. Però tu che attore sei quando vai, adesso sei sul set, Le Tre Rose di Eva o Un Posto al Sole, eccetera. Sei sempre leggero? No, non mi fanno fa quelli leggeri, mi fanno fa quelli pesanti. Esatto, capito? Per cui però mi sfogo quando sto fuori onda. Allora sono divertente, scherzo, gioco, rido. Infatti mi dicono ammazza. Ma è simpatico. Ma è simpatico, guarda, non è così pesante come. Ma, no? Vabbè, io ti conosco fuori onda, in effetti. Del però resto non ti danno mai una gioia, no, nel senso, mai un personaggio. Ma questo è felice. No, questo niente. Pure il gladiatore, no. Cominci che è morta la moglie, ti hanno ammazzato un figlio. Au! Lasciami in pace. Abbiamo un Russell Crowe invece di Cinderella Man. Ah, bello. Ecco, un bellissimo film, quando ancora Russell Crowe era magro. Cioè era secco come un chiodo, sì, per no, fare quel ruolo. Era poi pugile, era la storia vera. Sì, una storia vera. Bello. Ascoltiamocelo. Ad Howard continuava a salire la febbre. E poi anche Rosie ha cominciato a starnutire. Dove sono May? Jim, non riusciamo nemmeno a tenerli al caldo. Dove sono i bambini? I ragazzi a Brooklyn dormiranno da mio padre sul divano e Rosie starà da mia sorella. Jimmy, non potevamo tenerli. Tu non prendi decisioni sui nostri figli senza di me. Ma se si ammalano in modo grave, siamo già in debito col dottor McDonald's. Se li mandi via, allora abbiamo fatto tutto per niente. Ma è solo finché non ci perché cos'altro l'ho fatto? Se non possiamo restare tornare insieme, significa che abbiamo fallito, che ci siamo arresi. Io non voglio arrendermi, sto cercando di proteggere i nostri figli. May, gliel'avevo promesso. Fuori dalla macelleria l'ho guardato negli occhi e gli ho promesso con tutto il cuore che non l'avrei mai, mai mandato via. Oh. Tu non puoi farmi questo. Tu non c'eri. Non puoi rompere la mia promessa. Jim, tu non hai visto. Tu non c'eri. Mi dispiace. Grandissimo film. Se non l'avete visto, guardatelo, perché Cinderella Man, lei è Giupizzo. Giupizzo, il titolo ti portava un po' fuori strada, Cinderella Man. Sì, sembra che a mezzanotte. Che poi era il soprannome di questo pugile, gliel'aveva dato storia un giornalista. Storia di un'intensità assoluta. Storia bellissima, bello. E forse il più bel film che ha fatto Russell Crowe, per quanto mi riguarda. Devo dire che è anche esaltante, non è Rocky Balboa, ma siamo ai momenti di grande verità. Ma anche perché veramente quest'uomo era la fame vera, non sapeva come dare da mangiare ai suoi figli, è veramente stato grande, bello, grazie. bello grande. Senti, no, prima parlavamo di questi passaggi, vai dalle Tre Rose di Eva a Un Posto al Sole. Tutti i giorni stai lavorando su circa tre piste. Sì, praticamente sto sempre sulla Roma Napoli, avanti e dietro. Sta attento, ci stanno i Tudor. No, sì, i Tudor, lasciamo perdere, guarda, ci hanno rovinato. Una volta si andava a Napoli a Piar Caffè, andava a Piar Caffè. Sì, quanto ci mettiamo un'ora? Un'ora. Vero. Stavi davanti al Castel dell'Ovo, un'ora. Adesso con un'ora e quarta a casa. Esatto, un'ora e quarta. No, vabbè. A me mi arrivano sempre, lei ha superato di 6 chilometri. Sì, e di 1,6 km? No, che lì è proprio una presa in giro. 1,6 km, che poi abbiamo macchine che sì, no, in effetti è come sulle sigarette, ormai ci stanno i morti. No, quelli, ma tanto sulle sigarette, ma quelle sono tutte cose economiche, servono per far soldi a qualcuno. In realtà quello che c'è scritto su un pacchetto non cambia niente, cambia se il tuo medico ti dice che c'è un problema, allora esatto, forse cambia. Cioè, no, quello che c'è scritto su un pacchetto, e dai. E allora, fatela finita. E fatela finita, le piace in giro. Guarda, ma arriva la denuncia dall'Unione, ma sì, se ne frega. De meno so de ostia. Ma che me frega? Questo periodo non c'avevo più manca la circoscrizione. Hanno chiusa, pensa come faccio questa come cazzo per fare. Va de che. È il mio segnale, scatena di inferno, ma scatenate ostia. Vedi pure lì, no? La bellezza di quel film. Bene, parliamone magari nel prossimo blocco. Tu hai fatto dei cult straordinari, cioè la tua bravura non è messa in discussione, ma su 70 film che restano una storia, 68 l'hai doppiati. No, te. No, dai. Oh, ma è così, ne parlavamo con Mauro Megoni e Alessia Navarro l'altro giorno. Non si mette in discussione la bravura, perché doppiatori, chi si è alternato su questo banco di prova, parliamo dei nostri amici, tanti, bravi, forti, cioè, magari hanno doppiato anche più film. Sì. Però quando hai il film e c'è la chiave, la frase che dici, si ricorderà per sé, come ne ho viste cose che voi umani non potete. Blade Runner, esatto, Sandro Iovino. Sandro Iovino. Che poi sui titoli c'è scritto Cesare Barbetti. No, certo, non lo sapevo questo errore. Barbetti è la voce di Robert Redford. Perché lo doveva fare Cesare. L'ho capito, Cesare non poteva perché stava girando e lo fece Sandro, che aveva all'epoca una somiglianza. Sì, questa voce un po' afona, leggera. Però sui titoli purtroppo rimase il nome di Cesare Barbetti, invece era Sandro Iovino. Che chiamerò quanto prima, che ecco, sì, questo, quelle cose è rimaste. Lui poi non la dice mai questa cosa, invece la dico sempre, perché è un peccato. Ma è giusto, che peccato. No. Però ecco, ci sono comunque cult, film indimenticabili, Pino, perché sei solo chiacchiere distintivo. Sì, no, esatto, tu e Amendola fate a schiaffi su questo lato. Cioè, bisogna un giorno calcolare quante sono state, perché tu sei riuscito a essere anche 007, no? Per cui il sogno di ognuno di noi è dire: mi chiamo Bond, James Bond. Che cavolo. Invece di mi chiamo Insegno, mi non segno, capito? Almeno una volta ho detto: sono Aragorn, figlio di Arathorn. Ecco quello, me coglioni. Già. Un conto di so quello, so Pinuccio Fio d'Armandino, è un'altra cosa. Non scendiamo. Allora, a fra poco, ancora con Luca Ward, e credo che in questo blocco rimarrà ancora questo, e il prossimo. E un Ezechiele tu me lo devi fare. Ezechiele? Eh sì, me lo devi 25-17. Sì, dopo me lo fai il cammino tu. Del... Ma dopo, l'uomo Luca! L'uomo dimorato è minacciato. Vendiamo un po'... Ecco, a fra poco, questo era il trailer. Tra poco vuoi sanatomi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Voice Anatomy. 15, 18 primi e 7 secondi, Voice Anatomy, al mio fianco Luca Ward. Quanti messaggi anche questa domenica a Luca Ward. Riesce ad ingravidare con la voce, bisogna prendere le giuste precauzioni prima di ascoltarlo. Aiuto! No! Finalmente ospite Luca Ward, senza nulla togliere, i tuoi meravigliosi ospiti. Che dire, Luca, anche se non mi conosci, per me sei uno di famiglia. Ti voglio bene, caro Luca. È troppo divertente seguirti su Facebook. Un abbraccio, Claudio Forte. Un abbraccio forte da Claudio, non so, si chiama così il cognome. E tanti altri complimenti, insomma, non c'è grazie, nessuno che ci tratta che ci tratta male. Qual è fra tutti i personaggi interpretati? C'è qualcuno che ti ha reso più orgoglioso? Quello fra i tanti che abbiamo detto dei cult o anche di altri minori, magari un film minore che beh, vabbè, che il film, la scommessa in assoluto più difficile è stata Pulp Fiction. In assoluto, perché era veramente indoppiabile. Sì, e sì, se pensi vero. Che Francesco Vairano che fece i dialoghi, poi era in slang oltretutto, quindi certo, incomprensibile. Mi pare che ci mise una cosa come 5 mesi. Sì, poi Tarantino è un attento sempre, molto, step by step. E noi l'abbiamo fatto, pensa, in diretta spesso da Los Angeles, sì, perché lui ci sentiva al telefono. Sì, sì, sì. Sono con Samuel Jackson e disse: ah, dice tu sei negro, dico sì, de ostia. De ostia, sempre de ostia, sono sì, negro, perché de poi ostia, naturalizzato il nero, ostia. Il negro è quello che ha una voce particolare, non è la voce bassa, è no, che c'ha questa... È inimitabile, non ci la arrivi, voce nera. Non ci arrivi, è il impossibile. Sì. Noi facciamo, troviamo una giusta via di mezzo. Sì, nell'immaginario della voce nera è quella bassa. È quella... Però tu anche nell'ultimo di Tarantino, Hateful Eight, hai sempre seguito lui, no? Sì. C'era Samuel Jackson, sì, che lì l'hai modificata. Per forza, ingolandola devi, molto. Devi trovare un modo per stare dietro a questo gigante, perché poi se lo sentite, e molti l'avranno sentito in originale, è veramente un gigante, sì, un attore straordinario. E quello è l'unico modo per cercare di accontentare, no? Certo. Dare una certo, botta alla lo botta diciamo al sempre da questi microfoni. Se conosci l'inglese o segui l'inglese, se conosci il francese tu lo segui in francese, se no te lo senti in italiano come un buon libro tradotto, insomma. Ma appunto non credo la discussione è sterile, sì, doppiaggio no, sì, no, doppiaggio no, no, no, no, no, no, no, ma infatti, guarda, è meglio la scendere in piazza e andare a protestare quando chiudono un ospedale, insomma. Esatto, no, sarebbe più bello, lo bypassiamo come le sigarette, oggi siamo arrabbiati, oggi Luca è politico vero, oggi scende in campo per 12 stelle, oddio. Dio, possiamo fare 12 stelle. 12 a Grillo e Biancorpo. Candidai, raddoppiamo. Pensa a noi sui cosi, sui palchi lì. Ma sui palchi non ce n'è per nessuno. Ciao Grillo. Proprio. No, ciao tutti. Ciao a tutti. Quello che loro non vogliono, noi facciamo anche e faremo dei tutorial anche da qua. Per ci sono dei cantanti, dei professori che vengono a spiegare la voce, vocologi, eccetera. Questo miracolo. Perché anche con il ministro abbiamo parlato di questo. Insegniamo l'italiano a scuola, non la grammatica soltanto, ma l'italiano. E soprattutto insegniamo a questi ragazzi a avere questo coaching della propria voce, uno strumento che poi utilizzeranno, saranno medici, saranno politici. Ma sì, perché al di là dell'elemento di comunicazione più importante, certo, al mondo, fine. È il miracolo. Esatto. È queste voce. Due lamelle che attraverso l'aria e il diaframma, esatto, noi partoriamo dei pensieri, delle idee. Pensa a Martin Luther King, la fotografia, sì. Sì, e che te racconta? Esatto. O Kennedy, sì, nel male Hitler, no? Cioè la voce, sì, sì, sì, è la voce, una potenza assoluta. Assoluta. Esatto, per cui se facciamo un partito vero e chiamiamo tutti Emanuela Le Rossi, 12 stelle, Pannofino, Massimo Lodolo Corbo, chiamiamo tutti. Beh, lì è finita. E pancione per lì nessuno. È finita. Ministro, tocca li dica solo per chi diventa ministro di cosa. Esatto. A chi ci capisce qualcosa di più. Sì, appunto, lì la vedo dura, però insomma. Oppure ci chiamassero per doppiare i politici che stanno adesso. Ecco, quella potrebbe essere una cosa carina. È un'idea. Sì. Sì. Non è male. Pensate, su chi puoi stare tu con questa voce? Io con questa voce? Ma non lo so. No. Sono del nord, però. Sì, Lega, magari. Salvini. Salvini. E mo salvi, Salvini o salvi? Vabbè, ne salviamo parecchi. Sì. Insomma, che salviamo solo Salvini perché insomma Renzi. Sì, e dai, no, esatto, insomma, esatto. Potremmo, ecco, siamo pronti. Non è male sto lavoro che ci siamo scelti. Dai, non so quanto prenderemo a turno lì. Insomma, qualcosa si guadagnerà sì, di più. Sicuro. Sicuro, soldi. Insomma, abbiamo trovato pure un nuovo mestiere, carissimi, ci proponiamo, va bene. Facciamo così adesso, come è successo con il grande Francesco Pannofino, invece di riascoltare la sua interpretazione di Forrest Gump, Forrest Gump ce l'ha riregalato qui, anche se si era dimenticato la voce, quello che diceva, oddio, giustamente. Quanti anni sono passati da Pulp Fiction? 94, sono 20 anni. Quasi 22. Quasi 22 anni, è un botto. È tantissimo. Cioè io avevo 34 anni. Ma io non so, ce n'avevo 12, per cui non andavo manco al cinema io, per cui. Cioè, infatti quando mi sento lo dico Porello, mamma mia. Ma dai, ma te lo proprio sempre. Sforzo, ma che dai, sforzo. Ma è rimasto nell'immaginario. Lo so, però poi ti risenti a distanza di anni, tu sei cresciuto, sei andato avanti e magari. Ho capito, ma se lo facevi con la voce da adesso ti arrestavano, non è. Me portavano via. Capito, non è che si poteva fare. No, quella giovane come te. Allora, noi non ce lo riascoltiamo, ce l'ascoltiamo qui adesso in diretta, la musica di sotto, abbiamo scelto anche la musica giusta, tratta da qualcosa, da Pulp Fiction oppure da un altro film? Da Matrix. Da Pulp Fiction, da Matrix, è uguale. È uguale, o vedi, sì, ha sempre fatto te, sempre a pillola rossa, a pillola blu. Hai anticipato tutte quelle medicine che aiutano noi uomini. Esatto. Voi uomini. Allora, Ezechia, come si intitola Benedetta? Che c'è mia nipote qui che dice, c'è Luca Ward, vengo, ho capito, ma ci sto io, c'è tu zio che insomma, no? Come si intitola? Abbassa il microfono, come si intitola questo? Presenta tu Luca Ward con questa pillola. Ezechiale 25-17. 17, senti Roma. Ezechiale 25-17. Ezechiale il cammino dell'uomo di Moreno. Scusate. Allora, in italiano. Ezechiale 25-17. Recita? Luca Ward, Jules Winfield di Pulp Fiction. Ah, l'inglese ha sentito la pronuncia. Vedi, ma l'italiano è Ezechiale. Ma i giovani sono forti. Well, sono forti. E allora, l'atmosfera giusta in studio è Luca Ward, Pulp Fiction. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te! Bam, bam, bam, bam, bam. E che? E che? E allora? E che c'ha solo della voce? E dai! C'ho il batticore, non c'ho più le da. Ma guarda questa, ma che piagna, quest'altro vicino, quelli del là in studio tutto esaurito. E domenica invece me la faccio da sola la trasmissione, non vedo nessun collega. Tre ore e un quarto mi dovete stare a sentire. E se volete cambiate canale, ve faccio Ezechiele, Forest Gump, li faccio io, perché io i due lo fa. E qui esce fuori, normalmente tre passi indietro come presentatore, mo 12 in avanti. Bello, bello. Bello, dato... no, ma quello, bello. Il l'hai fatta così anche. Scritto bene. Ma adesso non so se abbiamo quel pezzo di Pulp Fiction, no? C'è un altro pezzo. Allora, sentiamoci quel pezzo di 22 anni fa, non lo stesso, e sentiamo Samuel Jackson come l'avevi affrontato. Tu che ne pensi di tutto questo? Amico, non mi sono fatto un'opinione. Ma devi esserti fatto un'opinione. Insomma, secondo te a deviare i proiettili è venuto Dio in persona. Cazzo, si può sapere, da che schifo! Ho preso in piena faccia Marvin. Ma mi dici perché l'hai fatto? Ma non volevo farlo, è stato un incidente. Senti, bello, ne ho viste di stronzate nella mia vita, ma questa... Datti una calmata, è stato un incidente, probabilmente hai preso una buca. La macchina non ha preso nessuna maledetta buca. Senti, basta, non volevo sparare a questo figlio di puttana. È partito un colpo, Ma guarda che casino hai combinato, e ci troviamo in una strada in città in pieno giorno. Posso crederci. Ci puoi credere, figlio di puttana, dobbiamo togliere la macchina dalla strada. Gli sbirri tendono a notare cose tipo guidare una macchina inzuppata di sangue. Gli amici, facciamo qualcosa, facciamo. Siamo nella valle, i Marcellus non ha nessun posto di amici. Questa non è la mia città, lo vuoi capire? Cazzo! Che stai facendo? Voglio chiamare un amico a Toluca Lake. Dov'è Toluca Lake? Oltre a quella collina, vicino a Burbank, ci sono anche gli studi. Se Jimmy non sta a casa, non so che cazzo dobbiamo fare, perché non ho nessun altro amico in questa zona. Non è così lontana, la no, voce. Vabbè. E qui calcola che è anche un po' leggermente velocizzata, che quando purtroppo riascoltiamo il film gira a 25, noi incidiamo a 24. Esatto, noi incidiamo a 24 fotogrammi al secondo, come per il cinema. Per il cinema. E la televisione è 25, il DVD o il Blu-ray o il VHS è 25 fotogrammi, per cui se uno doppia con una nota c'è mezza ottava più perché su. Modifica poi non solo la voce, ma anche l'intenzione cambia. Eh sì, è perché diventa poi così, cambia. Diventa picciato, come seguire attentamente come le cose Allora, emozionati ancora? Rimane un altro blocco con noi, rimani Luca, dai, poi te ne vai, dai. Dai, no, adesso che qui sta succedendo qualsiasi cosa. Una forza Salvini a dirlo. Forza mica Luca, che ha voce di Luca, ma non discutiamo l'uomo nel politico, ovviamente. Qui ce ne frega niente. No, zero. Luca, dopo tanti anni riesci ancora a divertirti, a emozionarti al leggio? Questa è una domanda che fa un nostro radioascoltatore. Sì. Ti diverti ancora? Sì, anzi, più passa il tempo e più si diventa fragili, forse, no? Forti per certe cose, ma magari fragili nei ricordi, perché comunque sono passati tanti anni. Abbiamo fatto un 35 anni, credo, anche con te, no? Con tanti miei colleghi, Pedicini, dai Pannofino, porno 35 anni. Dai porno 35 32 anni, ma da magari quando facevi normale. E quindi magari ti emozioni, anche perché poi oggi si lavora in maniera diversa, si lavora da soli, prima invece si stava tutti quanti insieme. Adesso ognuno fa la parte sua e si sente. Visto che sta arrivando l'autunno e l'inverno, andrei in pubblicità dicendo che non può piovere per sempre, no? No, non può, anzi, è tutto settembre che piove. Andiamo. Il corvo non può piovere per sempre. Vai. Voice Anatomy. Eccoci signori, come promesso, fra anche un provino e l'altro, provino nel senso bonario, vengono delle persone invitate fra tanti ragazzi che ci chiamano, giustamente anche per cimentarsi, per testarsi, per mettersi alla prova con dei professionisti che ovviamente non fanno i giudici di nessun cosa, non è un talent, si dà qualche consiglio gratuito. In questo caso, durante la pubblicità, abbiamo chiesto un centinaio d'euro, ma non ce l'aveva il ragazzo, a meno che no. Allora ci siamo fermati a metà dei consigli lì. Sì, abbiamo preso quello che c'era, che erano 22 euro e 50 li abbiamo seccati, due pulciari. Sì, vabbè. Però io ho portato una persona che tu conosci perfettamente, che è anche un nostro tuo collaboratore, che è Francesco Silella al mio fianco. Perché sei qui, Silella? Quello è un microfono, Silella. Tu sei anche un attore, per cui sì. So che ti emozioni, ma quello è un microfono, non è un rasoio. Hai peli sulla lingua? No. Tranquillo. Sulla faccia sì, però. Silella, perché prendi e ci stai doppiando in questo momento? Cosa vuoi raccontare di me e Luca? Che succederà? In realtà è che ci sarà questo grande evento che sarà a fine ottobre, precisamente. Ah, avessi azzeccato una vocale. No. Infatti, ottobre. Presentato così. Questo evento. Vabbè, io me ne vado, ciao. Non abbiamo possibilità. Ma infatti sono assistente, non riesco Sì, no, ci sarà ottobre, quindi dal 24 al 28, da un lunedì a un venerdì, ci sarà questo grande masterclass sul doppiaggio, sì. 5 giorni di chi sono full i immersion e i grandi, diciamo, dirigenti, ma quanto maestri. Dell'evento sarete tu, Pino Insegno e il mitico Luca Ward. Certo, tu, che... Pino Insegno e il mitico. Già ci fai litigare dopo 35 anni. Ma guarda come rosso, sta se sudando. Non ci litigo quando ci doppio insieme, perché mi ci fai litigare adesso? No, hai ragione, è stato un colpo molto basso. Ma capito, io capisci che quando doppiamo con Luca, per Luca non esiste musica, vento, dialoghi, lontananza. Lui quello è, e se voi lo prendi, lui certo, e poi incide. Tu dici, beh, stavolta non l'ha incisa. Non si è capito niente. Ha detto soltanto... Così, ha sentito il vento che usciva dalla bocca. Dico, no, lo devo rifare, perché io ho detto, da questa parte! Lui mi ha detto, sì, perché non è vero. E invece vai da là e si sente... Sì, ti sto raggiungendo. Ma perché se io non l'ho sentita? Perché di là vieni? È un mistero. È un mistero. Vero. Insomma, Luca Ward e Pino Insegno, che ha comunque il cognome migliore per insegnare. Sì, Pino. Sì. Lui è mitico, ma io ho il cognome che aiuta tutte e però due. Però Ward in inglese vuol dire reparto, quindi ci sarebbe il reparto voce dove c'è qualcuno che insegna. Quindi, ho capito, però te stai a capare proprio una brutta. Perché è scritto Ward e non Ward. Sennò Ward era parola, no? Esatto. Ovviamente. Invece Ward è reparto. Reparto, sì, corsia, soldato di trincea, pupillo di, insomma, porti un sacco le cose. Comunque per te, Francesco Silella, il masterclass finisce qui. Esci dalla sala. So che sono rimasti due o tre posti però liberi, non di più. Ormai molto pochi, però ci sono ancora... Però è un masterclass interessante perché Luca, insomma, è tanti anni che fa docenza. No, non voglio parlare di me perché ovviamente è un'altra cosa, cioè saper insegnare ad essere un bravo allenatore non è detto che sia stato un grande calciatore e viceversa. Quando si sposano le due cose, per carità di Dio, in questo caso Luca è sicuramente un docente decente, no, bravo. Ma poi sono cose dirette a tutti, non sì. Specialmente, cioè, solo ai professionisti, su attori, eccetera, perché poi saper usare la voce serve in tutti i mestieri. Lo diciamo prima, infatti, sì. Per cui avere una consapevolezza di quello che diciamo ogni giorno, come quando uno s'alza e dice buongiorno mamma, buongiorno papà, buongiorno figlio, se li registriamo sono tutti diversi. Esatto. Infatti è stata la grande sfiga dei campionatori vocali. No? Che sì. Noi ci avevano campionato le voci anni fa, ti ricordi? È vero. Io quando risentì il campionato dico, mazza, ho svoltato, la vendo, me incasso tutti questi soldi e me ne vado. E invece no, perché il campionatore non ha l'anima, non ha il cuore e quindi non sa potuto fare. Ma il GPS invece noi non lo facciamo. Lo sai chi l'ha fatto adesso, il primo GPS, credo, se non sbaglio? Samuel Jackson. Per cui lo fai te qui. No, ma pensa a fare. No, il GPS te becchi tutti gli improperi del mondo. Però perché è bellissimo. Al mio segnale girate a sinistra. Hai capito? Un'altra cosa. C'è l'asfalto bagnato, ma non può piovere per sempre. Sì, sei uno che ha superato il raccordo anulare 40 km di fila e alla fine il navigatore, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità, sei arrivato a destinazione. Beh, bellissimo, fantastico. Beh, abbiamo aperto due link professionali oggi. Dai, niente male. Chiamateci Mercedes, esatto. BMW, Fiat, anche Fiat va bene, tutto anche la Fiat, dobbiamo GPS e politici. A voi però darci la possibilità di renderci felici, fare un mezzo sorriso in questo. Dai. Silella, va bene questo masterclass, metteremo anche la foto eccetera, il telefono lo leggeranno anche. Non la mia, spero. No, Silella, no, tu lo sai, io e te siamo gonfiata la vena, siamo litigati con Silella ormai, sì, non ormai voglio più sentir parlare di collaboratori. Ci arrivo al 24. Hai capito? Dal 24 al 28 lo faremo in una grande sala di doppiaggio, molto comoda, perché grande, non comoda magari per me che da Monteverde fino ai Prati Fiscali, però insomma la situazione però è grande, bella, grande e soprattutto si trova parcheggio. Esatto, c'è parcheggio, come i ristoranti, vogliamo a mangiare pure qua, se mangia male, ma c'è parcheggio. Esatto. E che devono fare questi 3-4 che sono rimasti alla finestra? Possono scrivere una mail a masterclass007@yahoo.com. Ripeti? Masterclass 007 @yahoo.com. 007 ci ha messo Bond. L'ha fatto lui. Ti ama a sti livelli. In modo platonico. Sì. Ma cioè, va bene, cioè, perché poteva essere pure Masterclass Django, capito? Sì, capito. No, 007, però ci sta 007. Tu c'avevi a modo targata 007, straordinaria. Ti amo, ti ho sempre amato per questo. Oppure possono inviare un SMS o chiamare al 344-2604-174. E ripetilo, sono sempre a luce rossa al telefono. L'ha fatto con l'ansia. Non sbagliai, vocale. 344 344-2604-174. Va bene, lo metteremo anche sul sito nostro di Voice Anatomy, dove voi cliccherete e scoprirete tutto questo. Silella, grazie di avermi esaltato in questa maniera rispetto al tuo amico Luca, ma va bene così, non c'è nessun problema. Hai conosciuto qualcuno dei tuoi corpi? Attori, sì, ho conosciuto Hugh Grant tanti anni fa, carino, divertentissimo, come nei film, ragazzi, e nella devo vita, dire che... nella vita. Russell Crowe. Ah, l'hai incontrato? Dopo, sì, rapimento e riscatto. Era la prima. Che lui è arrivato e mi ha detto, dice, oh, ma hai doppiato te su sto film? Dico, sì, sì, sì. Ma così t'ha detto? Sì. Ah, hai doppiato te? Ah, ma hai doppiato te su sto film? Perché lui è detto, De Maccarese. De Maccarese. De Maccarese, che niente a che vedere con Ostia, però. No, attenzione. No, Ostia. Dice, ma mica ci vogliamo vedere il film? Dico, no, anche no. Dico, io ho doppiato, te l'ha fatto? Dice, allora andiamo in giro per Roma. E tu e Russell Crowe in giro per Roma? Sì, fantastico. Beh, vabbè. Fantastico. Lui però c'aveva i capelli lunghi, la barba. Non riconoscevo. No, e non capiva nei bar, quando entravamo nei bar, che ne so, il caffè, la cosa, che... A tutto ce la fa la frase, io al mio segnale scatola. C'è quello vero vicino. E lui che mi guardava, dico, ho capito che fa attore in Italia, ma che fai quando ti dicono? E dico le frasi tue. Come dice le frasi mie? Di quale film? Dico del gladiatore. Cioè, a me non me l'hanno mai chieste. E io lo so. E ma io so de Ostia. No, è che tu gli hai dato magari una forza diversa. Adesso, ma ti ha diretto benissimo, devo dire, Fiamma Izzo lì, perché poi, essendo una cantante, riesce magari a notare, perché anche lì tu potevi appoggiarti su mille altre possibilità. Al mio segnale scatenate l'inferno, al mio segnale scatenate l'inferno. Però cioè, quella frase là l'abbiamo incisa tante volte, poi è sicuro, fine, perché è stampata nella storia quella. Sì, perché poi alla fine non sapevi quella giusta, quella non giusta, quindi è stata una ricerca, mentre le altre venivano. Quella lì però massimo, era proprio, ma vabbè, quella è facile. Sì, sì. È più difficile di un sì a volte, capito? Un buongiorno, come è diciamo buongiorno. Prima, sì, è vero. Capito. Però quella sì, col caso, ti hanno detto che ti hanno mandato leggenda metropolitana, l'elmo. No, è vero, ma una cosa imbarazzante. Cioè, ti hanno messo l'elmo addosso, sì, suo del film. Sì, messo l'elmo e a me cavo, cioè, mi rimbombava dentro l'elmo. Dico, scusa, Fiamme, ma come vuoi che recito io? Ma come posso recitare con l'elmo in testa? Con l'elmo, ha detto, io ho messo l'elmo in testa del gladiatore. Ma infatti è durata poco. Non ti ha aiutato. Ma no, l'ho dovuto levare, non riuscivo, mi rimbombava tutto. Mi sentivo dentro a Cloaca Massima di Roma, capito? Dentro una fogna. Io pensavo che fosse una leggenda metropolitana. No, è vero. Ci sentiamo un altro contributo prima di salutare Luca, manca pochissimo. Un altro Russell Crowe o un parto col folle, Robert Downey Jr., dove tu hai doppiato anche nel Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Yes, e questo yes. Ce lo sentiamo in un film comico che è Parto col folle, Robert Downey Jr. con la voce di Luca Ward. Mio padre diceva sempre: se una giornata comincia male, poi la strada è tutta in salita. In salita? No, no, si dice tutta in discesa. Ma la gente punta in alto, non vuole stare in basso, quindi è tutta in salita. È più facile andare in discesa. Quel detto di tuo padre non esiste. Ecco come sono messo. Staremo insieme per qualche giorno, non ci farebbe male conoscerci meglio. Disprezzo la tua persona a livello neuronale. Ok, me l'hanno già detto e ci sto lavorando. Questo è inammissibile. Ciao tesoro. Dove sei? Al Grand Canyon. 5 minuti arrivo. Hai detto Grand Canyon. Niente panico! Niente panico! Ti porto a casa sano e salvo. Ora ti bacio. Smettila, Peter! Sto guidando! Che schifo! Perché te lo porti dietro? Perché qui c'è mio padre. Perché le ceneri di tuo padre sono in un barattolo di caffè? Perché mio padre è morto, Peter. Papà, sei stato come un padre per me. Non mi ricordo il nome di chi l'ha costruito. No, errato. È il Grand Canyon, non il ponte di Brooklyn. Lo so che non è il ponte di Brooklyn. Quello l'hanno costruito i padri pellegrini. Errato anche questo. Hey! Check yourself before you wreck yourself. Questo caffè fa schifo, sa di lettiera per gatti. Io l'ho trovato squisito. Ho usato il barattolo che avete portato. Oh, cavolo. C'erano le ceneri di suo padre. Roberto Stocchi ovviamente era l'altra, sì, a voce. Vedi, dai, devi fare una cosa comica. Elisa di Livombrosa? Bello. Vedi che arrivano che cosa? La prima serie, che dicono di Elisa? Ha detto solo Elisa di Lombrosa. Cioè, l'intenzione è questa, come l'ha scritto. È la prima serie, perché la seconda, la terza, ciao. Sì, anche sì. No, grazie. Ma lì è vero, noi facciamo Elisa e Rimottusa della prima come ditta, no, prendevamo certo. Io facevo te. Come no, come sì, no, sì. Come no. Ciao come Luca, ciao Pino, sono studente di giurisprudenza, posso partecipare anch'io al masterclass del doppiaggio solo per attori, grazie. No, come diceva Luca prima, è aperto perché comunque aperto si divideranno ovviamente quelli più dotati, meno dotati, ma è una cosa che ti chiuderà, poi se sei un futuro avvocato, credo che usare la voce nel modo giusto. Avvocati sia... penalisti, soprattutto. Beh, ne abbiamo avuti tanti. Esatto, tanti. Ma sì, ma dovrebbero farlo, ti ripeto. Beh, sono degli attori loro. Dobbiamo chiudere, madonna, così ti corso. Luca, devi tornare quando sarai libero, dai, però mi sembra sia stata una bella passeggiata. Molto. Luca Ward, Silella, qualcuno ti saluta, non riesco neanche che qualche amico ce l'hai pure tu. La mamma. Sicuramente. La madre. Silella è quello che stermina gli ulivi. Che vuol dire? Ma che vuol dire? Ah, perché il batterio. Ah, la malattia degli ulivi. Ma no! La Silellax! La Silellax! No, riga, no, ma non dite così. Sono straordinari, questi sono dei pazzi. Stupendi, no, lui sta sterminando Silellax, solo me. No, il no. Batterio Silellax, no, mi pare. Siete pazzi. Troppo bravissimi, Marta, ciao. Va bene, Marta, grazie. Luca, grazie. Noi ci vediamo dal 24 al 28 in questo masterclass. Yes. È un grande piacere averti avuto, nel senso ovviamente artistico del termine. Esatto, grazie a tutti. Luca Ward, signori, a tra poco, poi Voice Anatomy. Ciao. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, sono le 15:48 primi e 52 secondi in questo momento. Luca Ward ci ha fatto compagnia, una bellissima compagnia, per un'ora e un quarto e adesso alterniamo con un altro, è arrivato l'altro graditissimo ospite. Le stampelle mi è arrivato. È Alessia Navarro, la voce che sentite in lontananza. Eccolo qui, devo dire che è stato veramente emozionante, tanti messaggi. Come sempre, sempre apprezzato. Poi in una domenica senza calcio speriamo di tenervi compagnia con questa voce, non soltanto la mia ovviamente, se no sarebbe una noia per tre ore. E la prossima settimana addirittura cominceremo anche con dei tutorial della voce, come ho già promesso, per fare gli esercizi a casa, come si fa normalmente per la ginnastica, si riesce a fare per la voce. Allora, per tutti quelli che la utilizzano per lavoro, per parlare, per comunicare, è fondamentale l'utilizzo della voce. Oddio, sta arrivando il prossimo ospite. Abbiamo anche la visualizzazione, per cui potete capire che non entrerà con le sue gambe, ma non riesco a capire che è successo. Gambe de ferro, un altro di Verona. Braccio di legno. Gamba di legno. Allora, la voce che state sentendo è del bravissimo attore, ma soprattutto regista, Ivano De Matteo. Ivano, quella è la cuffia, non è per farsi la doccia ovviamente, ma questo dovrebbe essere il microfono per parlare. Se quello è il microfono per parlare, che puoi anche indirizzarlo la tipo tua voce così. Fino adesso è stato utilizzato da Luca Ward, lì per cui ci sono ancora dei rimasugli di voce timbrata, ma anche la tua non è una voce leggera, eh. Che è successo alle tue gambe, De Matteo? Quali? Quelle di ferro? Ma perché giochi ancora a pallone a calcetto e ti distruggi? No, veramente ci ho provato e sono rimasto così. Non si deve fare dopo una certa età, Ivano. L'ho capito adesso. Esatto. A 50 anni devi rimanere fermo su un letto, guardi la televisione. Esatto. Facendo magari regista, seduto sulla scritta regista, dando bravo, delle indicazioni agli altri che devono saltare dal divano di casa. Tu invece così. Insomma, la storia di Ivano è bella, è ricca, nel senso ricca, non parlo ovviamente a livello patrimoniale né amministrativa, ma parlo a livello di ricchezza. Mi sta scrivendo qualcosa Alessia Navarro che io non leggo ovviamente perché scrivono sottile, dimmi. Benissimo, benissimo. Mi sta facendo la riunione in diretta. Allora, questo blocco lo facciamo con Ivano, poi resta Ivano, ci colleghiamo col Teatro Eliseo di Roma, dove ci sono da Sergio Rubini a Francesco Montanari, Ciufoli e tutti quanti americani? Americani. Parleranno ovviamente italiano, perché nonostante la cosa di David Mamet è tradotta, è postata a Roma. Però dicevo, Ivano, io ho la fortuna di averlo conosciuto tanti anni fa, quando ancora luccicavano gli occhi, quando parlava quando c'avevi i soldi, quando c'avevi i sogni, e ce l'hai tuttora, perché li hai realizzati e in maniera molto interessante. In questo momento, lo dico subito, è in circolazione, come si diceva una volta, al cinema La vita possibile. Ma è anche difficile. La vita possibile, un film bellissimo con tantissimi attori bravi, c'è Margherita Bui, Valeria Colino, non voglio sbagliare, poi sono degli attori anche uomini importanti. Bambini e uomini. Bambini, c'è di tutto. Ti cito anche gli altri, Andrea Pittorino che è il bambino, Bruno Todeschini e Caterina Sciula, così ho chiuso il cast. Anche questo film, ne volevo parlare dopo, però ho visto che cominciamo con La vita possibile, visto che è già in giro. Io sai di che squadra sono, forse pure tu, e risate non ce le facciamo mai, giusto sta domenica se passa tranquilla, perché quando do la parola al calcio subito dopo la trasmissione per sapere i risultati dico passiamo la linea a Maina Gioia, sentiamo che cosa ha da dire, ma oggi Capuano non mi potrà dire niente di niente, solo sull'automobilismo forse, e stasera forse con la nostra grande nazionale contro la Macedonia, ma comunque siamo arrivati alla frutta, vuol dire è finita. La vita possibile è un grande film, è un grandissimo film, come sono stati belli e intensi gli altri film, Gli equilibristi, forse quello a cui sono io personalmente più affezionato, non so tu. No, vabbè, io sono tutti i miei figli. Oltre ai due veri che ho, no, ma che ne so, magari La bella gente, era un film che sono stato affezionato proprio perché c'ha avuto tante problematiche, quindi come il figlio che c'ha le problematiche, quindi l'ho dovuto coccolare, difendere anche fisicamente, quindi, e poi ne parliamo anche di questo in maniera intensa, che portano anche poi dei premi agli attori che dirigi. Lì c'è la Monica Guaritore Che ha portato a casa un bel nastro d'argento. La candidatura al nastro d'argento. Sì, insomma, quello è bello, quando c'è un regista dedicato agli attori non è male. E dicevo, una storia bella, intensa, comincia a Trastevere, la tua storia. Questa qua dell'ultimo? No, l'ultimo, La vita possibile, è in sala. Ah, io ve lo consiglio, veramente, perché poi sono quei film, fra virgolette, sono quei film intensi che ti lasciano un sapore in testa incredibile, che ti aprono gli occhi, i nostri ragazzi del Festival di Venezia, due anni fa. Anche quello. Poi ieri è andato, l'altro ieri è andato su Rai 3, l'hanno visto 1.018.000 spettatori, mi sono chiesto, pensa se andavano al cinema, ho cazzato 5 milioni di euro. Esatto, ma il cinema è così purtroppo, soprattutto con i film difficili, poi se esci contro Capitan America, contro Iron Man, contro Thor, tutta la Marvel, non è facile, no? Col primo film c'avevo l'uomo ragno contro. Esatto, poi uno se ne accorge, di quel film, dice, ma era meglio starmene un'oretta e mezza nascosto, mentre l'uomo ragno il cinema girava. È evasione, per carità di Dio, non bisogna nulla da eccepire e da dire contro i film d'evasione. Però, insomma, ci sono anche dei film che ti raccontano quelli tuoi, quelli di Virzì, insomma, piacciono molto, io li avvicino molto perché raccontano quelle storie dove la gente in qualche modo si riconosce, ognuno, un genitore, un figlio, sempre queste crisi familiari, poi risolte o irrisolte, sta agli altri capire. Comunque sono, sì, a Trastevere, nasce a Trastevere. 50 anni fa, quella gente, quegli odori, insomma, è lì che comincia il tuo cinema? Ma a un certo punto ti racconto, cioè, ma tu come sei arrivato al cinema? Allora, ci sono arrivato perché c'era Reale davanti, c'era Esperia, c'eravamo tanti, c'eravamo il Nuovo Cine, il Pidocchietto, il Teatro Regione Trastevere, che è il teatro nuovo che adesso è il Sacher de Moretti, quindi insomma c'eravamo parecchi cinema, quindi si partiva l'Induno, il Garden a Viale Trastevere, si facevamo tutti. lì quindi, è nata la passione del cinema. E quindi lì c'eravamo proprio la passione, perché partiamo una ventina dai vicoli e uno passava sotto la cassa, apriva la porta di dietro e quindi entravamo tutti quanti, quindi l'ho conosciuto in quella maniera. Non ti puoi lamentarsi, il film tuo c'erano 500 persone, ma l'incasso era basso. Ma all'epoca c'era una lira. Hai dato una dritta che non finisce mai. È difficile, dobbiamo andare, c'è il GR, per cui il blocco lungo. Ok, Ivano, adesso ci sono 7-8 minuti col GR e noi ci sentiamo fra poco. Non è che mai denunciano che ho raccontato che mi è imbucato 40 anni. No, ormai è andato in prescrizione. Sono caduto in prescrizione cose di quelli di adesso. Pensa la tua, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Anatomy. Eccoci di ritorno dopo la pausa GR e il traffico. Sono le 16.06, 28 secondi. Ivano De Matteo, attore, perché attore sei, non ti dimenticare. No, lo so, sei regista. No, non lo faccio, no, nel senso. Noi abbiamo un momento, più. C'è anche la diretta, abbiamo i colleghi al telefono. Allora, ci siamo collegati in diretta col Teatro Eliseo, dove ci sono un sacco di amici che sono impegnati in uno spettacolo veramente complesso. Glenn Rose, americani al secolo di David Mamet, che portò Luca Barbareschi tanti anni fa e lo ha riportato, ritradotto con la regia di Sergio Rubini. Ci sono così tanti attori in quello spettacolo, è veramente enorme. E abbiamo in diretta al camerino, chi abbiamo? Gianmarco Tognazzi. Gianmarco, Jim. Ciao Pino, come ciao, stai Luca? Jimbo, Luca? Luca è andato via e vi saluta tanto. C'è Ivano De Matteo adesso, che ci serve comunque. Ivano, ciao, ciao Jimbo, Ivano. Ciao, ciao bello. Beh, prima avete fatto veramente dei pezzi straordinari, volevo fare i complimenti perché era bellissima la trasmissione. Io vi ho seguito venendo da Velletri e devo dire, dove io vado stasera, pensa, a Teatro Cocciufoli, sto lì, vado a Velletri. Allora stasera ci vediamo, perché io vengo su a Velletri e torniamo lì. E allora dai, io stasera sono lì con voi. Teatro e teatro, Gianmarco, come va questa avventura lì? Non è facile, eh? No, non è stato facile all'inizio, ma sta andando, devo dire, benissimo. Bene. Sergio è un regista meraviglioso, estremamente rigoroso, ha rispettato Mamet alla virgola, ogni pausa, sai quanto sì, le pause in Mamet siano quasi più importanti delle battute stesse, e questo iniziare già da metà di una scena e finire a metà di una scena che spiazza il pubblico sia in partenza che in chiusura, ed è uno spettacolo fortissimo su questa competizione sulle vendite che è rimasta ambientata negli anni 80 in questa agenzia immobiliare dove questi venditori si scannano. Io purtroppo ho l'arduo compito di dover essere il gestore dei contatti che vanno a gestire in giro, quindi mi prendo una serie di improperi che ormai mi entrano da una parte e ti escono dall'altra, come quando giocavamo a tennis a casa da tu al torneo Tognazzi, ecco, il pubblico sono stato temprato dal torneo di tennis che poi Gianmarco, insomma, sei contornato e circondato da colleghi straordinari, perché a parte Sergio Rubini, l'amico di sempre Roberto Ciufri, ma Francesco Montanari, Gobbi, insomma, quanta gente c'è lì, cioè, sembra, sai che sembra vedere Federico Perotta, sembra di vedere quei film, quei colossal di una volta, quando usciva il film L'Inferno di Cristallo, Steve McQueen, Paul Newman, c'erano chiunque, e anche in questo caso è un colossal a teatro, dai. Beh, bello, la gente che Luca è riuscito a coinvolgerci tutti. Beh, sai, uno spettacolo corale dove in realtà sì, c'è qualcuno che prevale lievemente di più degli altri, ma lo spettacolo poi è corale, quindi tutti quanti hanno il loro spazio e la loro identità ben precisa. Uno spettacolo dove si sorride anche molto della cattiveria, della bassezza umana che è ambientata negli anni 80, quando ci sentivamo molto americani, ed è lì che è rimasto il titolo Americani, anche se è stato solo riambientato in Italia, ma nello stesso periodo. C'è questa parte di cinismo molto forte che poi ha creato quella bolla economica di cui non ci siamo accorti negli anni 80 e che paghiamo ancora oggi. Ed è molto attuale poi tutto quanto, non è un discorso antico sul teatro americano di questo secolo, eccetera, ormai dell'altro, è proprio attuale in tutto. E poi ripeto, la presenza vostra gli dà una freschezza e una modernità che non finisce mai, insomma, non lo devo dire io. Eliseo è già cominciato da un po' e andrete in scena fra pochissimo. A che ora c'è la pomeridiana? Perché abbiamo la pomeridiana alle 5, devo dire che sta andando molto bene in termini anche di pubblico, e mi fa felice per il Teatro Eliseo che sta facendo questa internazionalizzazione un po' del teatro con abitudini diverse, tipo quella di cominciare lo spettacolo alle 8 di sera, come succede in tutte le metropoli. Esatto, mentre quando andiamo all'estero ci abbiamo paura ed entriamo esattamente mezz'ora prima addirittura, no? E poi si riempiono questi teatri, qui non siamo abituati, e devo dire Luca ha fatto un grande sforzo. Si stanno abituando, Pino, perché io raramente ho sentito qualcuno che è rimasto fuori. fuori. In più c'è questa grande innovazione di avere un ristorante interno, quindi finito teatro, oltretutto abbastanza presto, intorno alle 10:15, puoi mangiare nel teatro stesso. Oltretutto ti consiglio di venirti a mangiare, perché si mangia strabbene. Tu dici lo spettacolo pure se ti è piaciuto, mangi bene, dici no, va bene tutto. Trovi pure i vini della Dognanza, trovi pure i miei vini, quindi c'è l'utile al dilettevole. Io con te ho sempre mangiato bene a casa, poi soprattutto, per cui guarda, sai quello... che me ne intendo. Insomma, devo dirti che ci sono una serie di oltre dei colleghi meravigliosi come Francesco Montanari, Federico Perrotta, Giuseppe Manfridi, Gianluca Gobbi, insomma come dicevi te, l'essere tutti quanti insieme. Infatti io spero che ci sia una tournée l'anno prossimo, visto che noi siamo fino al 30 ottobre, facciamo 5 settimane solo a Roma, vediamo se, però insomma, se siamo tutti d'accordo è bello fare così. Una bella tournée. Attenzione a Ciufoli, che me lo ricordo in tournée. Tu lo sai il bene che gli voglio. Lo so, siamo tenetelo vicino però. Siamo fratellini di tricologia. Esatto, siete con i capelli postdatati, questo vi stai dicendo. Ma pure Ivano De Matteo devo dire che si difende bene. Ivano, noi andiamo a vederlo, Americani, anche se l'ho visto, torno volentieri, e poi andiamo a vedere La vita possibile di Ivano, che è un altro film bellissimo che sta girando con degli altri colleghi, colleghe e colleghi straordinari. Hai qualcun altro vicino o finisce qui il nostro intervento? Io in realtà ci avrei sia Montanari che Perrotta. Intanto te li passo al volo, te passo Perrotta che di fianco a me, Montanari, sì. Così perlomeno pure loro dicono la loro, se no io alla fine sono monopolista. Vi do un bacio ciao grande Jimbo. Anche Ivano. Ciao bello mio. C'è una bellissima trasmissione. Grazie, davvero. Tanto verrei dal vivo. Quanto appena ti liberi un attimo, vieni qui dal vivo, Gianmarco, ci abbiamo tante cose da raccontare. Abbraccio. Forte. Ti passo Federico. Vai, Perrotta. Pronto? Tu che sei il piccolo di questa... Tu sei... L'attore giovane. Il piccolo non me l'ha detto mai nessuno. No, piccolo no. Dovete sapere che Perrotta è cresciuto nella nostra accademia tanti anni fa e adesso... Hai approdato all'Iseo, non mi rivolge la parola, ha debuttato con me al Sistina, stasera sarà con noi in scena a Velletri, ma da quando sta all'Eliseo non mi rivolge la parola. Non è capito, vero, Ivano? Pippino, devo ancora firmare il contratto, nessuno sa che sono all'Eliseo. Ah, non lo sanno ancora. Ha debuttato Ivano. Tieni presente, Perrotta, quando ti si presenta un provino, non lo prendere. Non lo prendo. Immagino con un regista cinematografico come Ivano, grazie di cuore, Pino. Prego. Questo perché mi vuoi bene. E no, stasera ti volevo soltanto dire che tutto quello che è successo grazie al fatto che il Barbareschi è venuto a vedere lo spettacolo Ti insegno un par de ciufoli al Salon Berto 2 anni fa. Il titolo già ci aiuta molto, Ti insegno un par de ciufoli e t'ha preso a te all'Eliseo, non a me. Cioè, hai capito? E ha preso ciufoli a te. Questo mi dovrebbe far pensare. Io sono il conduttore, ma non è giusto. Tu insegni e noi invece dobbiamo recitare. Quindi tu hai insegnato e noi abbiamo recitato. Va bene, Perrotta, la tua avventura con me finisce qui, amico mio. No, stasera avevi tre interventi. Il nome fa segno che deve finire pure con me. Esatto, finisce con tutte e due. In un attimo ti sei giocato teatro e cinema. Mi sa che era meglio che non la facevi interventi. T'ha fatto apposta con Ignazio. Esatto, ci vediamo stasera a Velletri, sbrigati a finire la replica. Un abbraccio. Passami Montanari, che qui c'è Meconi pure. Sì, glielo passo Montanari immediatamente. La ringraziamo. Ma è un call center. Mamma mia, sì, c'è Montanari, eccolo qui che sta fumando la sua sigaretta. Vabbè, prima di andare in scena. Montanari ripassa, tu lo vedi come un matto lungo i corridoi dell'Eliseo che neanche ti saluta, ma parla e si rifà lo spettacolo da solo, uno spettacolo corale, se lo fa da solo nei corridoi. Ma non eccolo sta qui, bene. Vediamo se riesce a parlare. Ma sta bene. In treno tutti gli scompartimenti puzzano di merda. Scusa, sto in preparazione. Insomma, tu te ne... C'è Ivano De Matteo. Ciao Franci. Sì. Ciao Pino. C'è Ivano De Matteo vicino a me. Ciao Ivano, come stai? E c'è anche Meconi alle riprese, pensa. Andiamo anche in diretta su Facebook. C'è una famiglia. C'è una famiglia, c'è Ierpuma e Fiero Locchio vicino Libano. C'è tutti. Praticamente potreste fare una puntata. Sperate. Esatto. Mi hanno detto che sei fortissimo e soprattutto la tua parte è pure un po' più complessa, visto che al cinema è stata interpretata da Al Pacino, o sbaglio? Sì, diciamo c'ho una pippa come referente, capito? Questa cosa mi mette molta ansia, per quello che ripasso sempre lo spettacolo, capito? Ma è lui che... Quantomeno la memoria la devo sapere. No, capito? Quello lo devi sapere. Però dai, lo pizzichi un po' quel signorino, dai, lo pizzichi. Ma lo pizzichi... No, lo pizzichi, lo prende, nel senso... Diciamo che fisicamente, anche tecnicamente, lo ricorda molto Francesco, dai. Certo, siamo Francesco. Circondati da amici qua, Francesco. Hai capito? Meno male che è famiglia. Mamma mia, ragazzi, ma veramente. Vedi, psicanalisi, certo. Cioè, è una trasmissione pluripremiata, distrutta in due secondi da Ivano De Matteo e Mauro Meconi. Sinceramente vado a braccio, non so se lo stile è questo della trasmissione, non vorrei. Io mi sto adeguando, mi adeguo. Ma infatti abbiamo sbagliato l'ospite. Fanno l'ospite. Segni, ho tante persone e mi fanno segni, quindi a volte... Sì, ma non capisce. Comunque, non capisce. Senti, noi stiamo andando in pubblicità. Quanto dura questa pubblicità? Un minuto? Resisti soltanto un minuto, Francesco, così ti saluto bene. Sì, un minuto, certo. Soltanto. Come un no? Minuto. Certo. A tra poco, Voice Anatomy. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati come promesso dopo un minuto di traffico. Ivano De Matteo al mio fianco, Francesco Montanari che sta per andare in scena con Americani, Gangreri, Gran Rosso al Teatro Eliseo con tantissimi attori. Francesco, volevo salutarti bene, torna alla tua memoria, perché insomma, come abbiamo detto prima, Al Pacino è lì che ti ascolta in qualche modo. Va bene, Franci, grazie, dai un bacio, grazie a tutti, a voi, un abbraccio, un in bocca al lupo. Merda, merda, merda a tutti. Merda. Siamo al teatro Ardenti. Vai, spaccali. Mi raccomando, portami Mauretto, che con queste figlie lui non riesce più a... Lo so, amore mio, ha fatto due gemelli, ha sbagliato, doveva farne uno, ma ne sono uscite due. Vabbè, che io dobbiamo... provo a venire, io infatti sono grandi, purtroppo ho il problema delle gambe, io quindi dovrei venire con le gambe. Lo so, Ivano, ma non ti preoccupare. Si è rotto le gambe. Farò, farò di tutto per venire. Noi ci vediamo questa settimana. Francesco, un bocca al lupo, merda, tantissimo merda. A tutti. Ciao, Fra. Ciao, Fra. Bene, era Francesco Montanari, prima era l'amichetto Jimbo, come lo chiamiamo affettuosamente, Gianmarco Tognazzi, Federico Perrotta che è la new entry leggera, in bocca al lupo a Ciufoli, a tutti quanti. In sottofondo c'è una Shirley Bassey che canta questa splendida canzone che è il tema del tuo film, e io me l'ascolto volentieri perché il film gli assomiglia tantissimo. Pure e poi mi so. Parli. Vai. A breaking heart can make me start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me. Ragazzi, Shirley Bassey, che poi ha cantato in italiano anche nei film, quelli di James Bond, esatto. C'è una cascata di diamanti, Diamonds Are Forever, l'ha cantata nel 45 giri in inglese da una parte, in italiano dall'altra. È bello. E questo... Poi questo penso come è caduta la scelta? È caduta, è caduta perché in realtà io, beh, lavorando con la musica dal vivo, nel senso io lavoro con la musica già scritta, no? Composta, quindi c'è il compositore, set, per cui sì, già cammino. Il mio compositore è Francesco Cerasi, col quale insomma ci ho fatto già 4 film. E quindi io faccio comporre sulla sceneggiatura il tema del film, no? E quindi poi su quella si compone e poi vado a inserire un paio di pezzi invece magari sui quasi nessuno lavora così. Sergio Leone lavorava così con Morricone, ma bellissimo, è bello, cioè io faccio agli attori, metto le cuffie alle orecchie, poi metto anche al macchinista, all'operatore, e qui comincio a prendere già il movimento del film, no? Ma è una cosa bellissima, cosa. E poi insomma scelgo alcuni pezzi, alcuni brani, ecco, in questo film La vita possibile c'è un pezzo di Jovanotti, è una storia d'amore, e poi c'era il finale, no? Questo finale. Io avevo messo Il mondo, no? Di Jimmy Fontana. chiudeva bene, quindi l'avevo già montato questa mongolfiera. Poi la casa editrice, diciamo, della colonna sonora, mi diceva: vorrei farti sentire un pezzo che parla di vita, che c'ha comunque l'apertura del mondo. Dico, mandala, non c'è problema. Come me l'ha mandata, l'ho richiamata subito, ho detto: dammi il pezzo. Tutto questo. Rispetto a Jimmy Fontana. No, dammi questa. E quindi sono contento perché... Io conoscevo bene il pezzo, ma non lo conoscevo cantato a Scilli Bassi. Tu sai quanto amo la musica da film. Perché non è stata scritta da lei, poi l'ha cantata nel 68. Ma nasce come musica prima americana o italiana? Perché credo prima... che il testo, non vorrei dire una stupidaggio, credo che sia italiano. E poi dopo sì. Nel 68, dal Festival di Sanremo, lei l'abbia presentata e la canta anche un italiano. Adesso mi sfugge. Sì, sì, no, ma... Però c'è anche in inglese, cioè tutta in inglese, c'è questa invece versione metà. Quelle musiche anni 60, inizio 70, meravigliose. Avevano questi bridge, questi refrain che ti prendevano veramente queste aperture. Cioè l'apertura, esatto. L'apertura del mondo. E siccome è il film di apertura, è un film drammatico, però in realtà rispetto agli altri miei film ho voluto lavorare proprio anche nella scrittura drammaturgica diversamente, perché se nei nostri ragazzi, nella bella gente, negli equilibristi erano famiglie borghesi apparentemente normali che partivano... apparentemente normali e tranquilli, andavano poi a distruggersi alla fine. In questo caso ho fatto un'apertura al contrario. Lasciata. Sono partito da una famiglia distrutta, quindi per problemi di violenza domestica sono andato a ricostruirla, quindi è un film di speranza sulla forza delle donne. Stai cambiando. Film d'amore. Ma io sono sempre in evoluzione. In fermento, nel senso, come lo yogurt. Esatto, però fermati un attimo. Fermenti lattici vivi. Fisicamente però lì non sto in fermento, io adesso sto in momento lì mi sono fermato. Adesso è uscito da un paio di settimane il film, una settimana, quant'è che sta in? Il film è dal 22 settembre, oggi c'è il terzo fine settimana oggi. Beh, che non è male se riuscisse a reggere. Non sono tantissime le sale, ma come sempre i film italiani di un certo tipo di film soffre questa cosa, sì. Diciamo delle sale, però io sono contento, nel senso, ahimè, cioè è chiaro, un film che siamo usciti con 65-70 copie, certo. Oggi ce ne abbiamo, credo oggi una ventina sono rimaste, però per me come autore è importante questo, cioè altrimenti, cioè se entro nell'ottica del mercato e vado proprio nel produci consuma crepa, ecco, io non esiste, nel senso io tento di fare il mio cinema, poi se piano piano spero di costruire un pubblico attorno al mio cinema, che è diverso, se non è che posso seguire io il mercato, altrimenti non seguo me stesso e allora sarebbe veramente una sconfitta. Ma questo è bellissimo quello che dici, perché è giusto non perdersi di vista e continuare sulla propria strada, non cambiare careggiata all'improvviso, non nessuno ti riconosce più, invece senza diventare stupido, non è che devi essere ieri... stupido, dai le capocciate. No, ieri parlando proprio con gli autori, con Mauro e con Alessia, dicevo questo è il minimo, c'è la famiglia, la crisi, è il minimo comune multiplo o il massimo comune divisore dei tuoi film che è uguale, ma uno è minimo, uno è massimo, nel senso che la famiglia c'è sempre perché ho sempre detto che provengo da una famiglia molto numerosa. Quanti eravate? Mia madre 11 erano. Da lì nasce la tua passione per il calcio. Esatto, con la famiglia e con quella di mio padre erano 10 perché uno l'avevano espulso, quindi sta fuori il primo tempo. Quindi insomma, da munizioni diretta. Quindi erano 10 figli tra maschi e femmine mio padre e 11 tra mia madre, quindi io ho diciamo dalla parte di mio padre e mia madre saremo credo 43 o 44 ogni volta di conto il Natale come i nani. Natale no? Costava e era belli non ci stanno più però no perché adesso ha preso il po' prima a parte così divaghiamo un attimo era bello perché insomma stavi comunque si dividevano 6 sorelle quindi se ne facevano 2 da una parte con tutti con 3 da un'altra parte sì perché dovevamo dividerci e le cartelle sono poche a tombola per cui quelle, non puoi giocare tutti quelle non per 91 non può uscire quindi soprattutto le bucce di mandarini erano quelle le bucce di mandarini tu mi stai aprendo il cuore questa con quell'odore che arrivava no? Quei sapori è quello che ti dice quando ho cominciato problema. La prima domanda che ti avevo fatto tra Steve i suoi odori la sua gente lì quella purtroppo si è persa un po'. Ma non è che è cambiato la sera, è cambiato il mondo, non è che sono cambiato io, penso, sta cambiando. Proprio tu. No, la tavola adesso non c'è più il mandarino, ha preso il posto questo oggetto. C'è il mango, c'è il telefonino. Ma sì, non si mangia più insieme, ci abbiamo tutti da fare questo aggeggio in mano. Ecco, questo è un po' il tema dei nostri ragazzi, che era un altro dei miei film, quindi non si mangia più insieme. Ecco, uno quello, sta seduto da una parte, il tuo figlio da una parte. I nostri ragazzi è veramente un cazzotto nello stomaco, come dice qui Federico. Dice fai i complimenti a tutti i tuoi film e c'hai sempre mi hai fatto sempre prendere male perché... ma pure a me perché c'ho un figlio pure io di 15 anni quindi dico ma chissà Uno ci prova a educare tuo figlio, ma che ne so, un giorno gli parta a Brock e di sera mi fa un impiccio, ecco lì, questa è la famosa doccia fredda che ti può capitare. Cioè, io metto in dubbio tutto. I miei figli hanno i dubbi perché ce li ho io come uomo. Certo, sono troppo amico? Non lo so. Devo essere padre? Ma io devo menà. Una volta due schiaffi, io sono cresciuto con la cucchiarella. Questo è Voice Anatomy. Che bella. Non la è, cucchiarella, no. Mia madre, quante me ne ha rotte. Esatto. Quella di legno. Perché poi ha cominciato, certo, con quella di ferro, con i buchetti per scolare, per tirare sui quella fritti. Quella fa male, però. Quella faccia più, mi ha detto, ma continua con quella di legno. Esatto. Però rimaniamo, uno è cresciuto, no, ma pure sano, per un green, no? Green, no? Esatto. Green, il legno, il ferro. Quello fa male, però adesso uno ha paura adesso di sfiorare proprio. No, bisogna spiegarglielo con calma. Io ho un figlio di 1 anno e 9 mesi. Spiegaglio con calma che non mi deve buttare per terra. Però i mica polizia con la cucchiarella adesso. No, io vorrei dare una capocciata. Ah, ecco, tu, esatto, è un altro discorso. Un faccia, non lo puoi, prendi bene a tenter naso. Se tu mi rompi i CD e i vinili da collezioni, io te butto dal primo piano. Adesso scherzo, ovviamente. Se no già qui con violenza domestica. No, è ovvio, no, che come i maestri, no? Il maestro a scuola è difficile. Se esistesse un libro e costasse 1 milione d'euro, farei i buffi per andarlo a comprare. Perché io non so più come prenderlo, ecco, no. Cioè, adesso c'ha 15 anni, cioè in un momento c'è un alieno dentro casa, non capisco più. Lupo poi si chiama, sì, esatto. Un nome che è tutto già un programma. Io quindi spero che mia figlia fino a 10, che vi ho detto va piano, sì. Io ho detto no, le donne crescono prima, piano. Ma va più veloce, quindi esatto, le donne sono disperato. Più veloce. E cerchi di esorcizzare tutto questo nei tuoi film, in qualche modo cercando, esatto, di trovare una soluzione lì all'interno, la trovi sempre. Resta qui, non ti muovere. Voice Anatomy, a tra poco con l'amico e il regista bravissimo Ivano De Matteo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno. Chi ci sta seguendo in diretta Facebook sa che stavamo sentendo una ragazza che stava cantando Amara Terra Mia in una maniera all'inizio molto fredda, un po' distaccata, poi invece grazie anche ai consigli di Ivano, col fuoco sotto, si vedeva, serviva a quello, insomma, accendino, no, piano, ci piano. Sta, ma quello sapeva i registi. Quello di somma, non, davvero, a volte tu bisogna. Sei attento alla storia, sicuramente, però tu sei un regista per gli attori. Attori. Sì, nel senso che sono contento. Perché a me piace lavorare proprio un mese prima quando me lo concedono, e se non me lo concedono lo prendo lo stesso, nel senso, gli chiamo, venire a casa mia, nel senso, ma io devo provare tutto il film con gli attori finché non fai questo, cioè, bellissimo. Sempre. Cioè, preferisco che mi tolgono una settimana di riprese, ma io voglio lavorare con gli attori, non mi importa. Io giro in pellicola. Devo lavorare con gli attori prima e poi dopo posso pure fare uno sforzo lavorando meno settimane, però devo. È gli attori sono gli strumenti, se no non posso fare un concerto senza gli strumenti accordati. È vero, e poi così ti puoi permettere di lavorare 3 giorni in meno, è vero, che puoi raggiungere quello. Poi studi un pochino, cioè ti studi, te li prepari bene. Anche perché non è un film d'azione, è un film d'azione familiare, d'azione interna, per cui quei ritmi devi averli, quel rapporto fra di loro, non si possono contrarre 9 la prima volta. Assolutamente no. E litigare in scena o fa pace in scena. No, lo fai come dici tu, di maniera. A me piace che invece questa cosa la devo sentire. Io piango, ma in questo ultimo film ero diventato il bambino, quindi ci sono stati dei momenti che scoppiavo. Anche perché chiaramente sto in tensione, cioè, i nervi scoperti, però ci sono alcune scene del film che mentre giravamo ero un po' io il bambino, mi riconoscevo in quel bambino. Sì, quindi, sì. Però non hai raccontato una famiglia numerosa come te, quanti cugini hai? Tanti. E ho detto, 22... ho 43 o 44, non mi ricordo, certo. Tra mia madre e mio padre, sì. Quindi queste vecchie famiglie. Quello dovresti raccontarlo, perché chi meglio di te che l'ha vissuto? Guarda, quello mio c'ho sempre avuto, c'ho un po' di pudore a raccontare, perché sai, io vuoi raccontare uso... te stesso piccoli puzzle, piccoli momenti mio... di te stesso nei film? No, sai che sì, ma la famiglia la uso proprio come, per me è un serbatoio inesauribile. Io penso che potrò continuare a fare film sulla famiglia cambiando soltanto, soltanto l'angolazione del racconto, non ha... veramente è un piccolo microcosmo, là dentro si racchiude, è una società, una piccola società, nel bene e nel male ci sono gli amori, le cattiverie, c'è tutto, l'odio, però tutto racchiuso l'ha detto. Poi famiglia, insomma, nell'accezione più negativa ricorda anche altre cose, no? La famiglia, sì, non è sempre bello come termine. No. Ah sì, la famiglia. Appunto. Allora, qui c'è un bellissimo messaggio, che bello ascoltarvi, esilarante, divertente, ma anche molto intenso, tanta informazione culturale. Poi, che bella banda, che bella gente, siete la via d'uscita, la ricetta gustosa e il piacere di tornare a guardare indietro per andare avanti. La vita possibile, film straordinario, ho avuto il piacere di applaudire in questi giorni. Gli attori tutti, Valeria e Margherita, poi senza citare il piccolo protagonista. Torino e tu di Matteo, emozione, è una grande mano per sperare di farcela con gli amici, la famiglia che ci scegliamo. Questi sono gli ascoltatori di Radio 24. Ma che figo, ma guarda, lo dico proprio, a me fa piacere questo. A me, ti giuro, tu no, dici, ma questo non è un messaggio, complimenti, sei bello, sei bravo, sono complimenti. No. Rossana da Catania lo scrive questo, poi ne ci stanno altre, ricorda il bellissimo, no, di Shirley Bassey, grandissima dove scelta. Dove l'ha vista il King a Catania, immagino. No, lei si chiama Catania. Rossana da Catania non è il cognome, è da Catania. Allora, perché a Catania ancora resiste, credo, sì, al cinema King, sì, lo dico. Lì, il sud è ancora quello che la famiglia forse ancora la tiene un po' più unita, ma senza non gli togliere ovviamente. No, al nord, no. Però ecco, questi sono bei messaggi, addirittura uno sentendo Shirley Bassey gli ha ricordato la grande voce di Proietti su Rocky nella scena del primo bacio con la cozza Adriana. Ecco. Beh, si trova tutto, a me si sa tutto, la presentazione sta della bella gente in Francia, uno ci aveva visto King Kong, cioè, no, vabbè, ti racconto l'aneddoto, no, io non capivo, già alzato la mano e quindi ha detto in francese, poi c'avevo l'interprete, mi ha detto King Kong, io forse no, perché vedeva quella, la donna veniva a salvare questo, io all'altra città quando sono andato a presentarlo me la so giocata. Ah, certo. Perché all'altro dibattito, quando ho detto Ichiko, dico, no, sì, c'è Ichiko, ma c'è King Kong. C'è il distributore francese che mi guardava con i lacrime agli occhi e gli ho detto, io me la so giocata perché era bella, bella citazione. Io non ce l'avevo provato proprio. No. Che normalmente quelli sono i critici, e quando sei morto, un po' ostumi, dicono fuori, mettono fuori. Ma io guarda, voleva quella c'è. Pubblico. Ah, beh, figura, ma però... è bello perché a volte quando giro un film ci stanno delle cose che tu non vedi. Cioè, esatto. Io vedo il mio film, l'ho visto io perché lo vedo sempre, sono malato. Sotto certi aspetti, sono quasi il montaggio. Adesso sto partendo qui, vado a Narni. Stasera sto a Narni, vado a presentarlo. Poi c'è il Q&A, c'è il dibattito a fine film, che è la cosa che a me piace di più. Cioè, io devo rompere sta quarta parete. Cioè, sono un autore. Se fossi esco in 100 copie, se fossero 100 Ivano, io andrei dappertutto. Io sono andato adesso a sedere rotelle, queste stampelle. Sì, perché sta così. Sono andato a Bologna, a Torino, a Pisa. E poi mi piace parlare col pubblico perché mi fa crescere. Magari fa la critica, ma dove si cresce, cioè, no, la no, critica no. Deve essere costruttiva, non essere un'offesa. Esatto, quindi a me esatto. Piace lì e quindi parlo col pubblico. Quindi il prossimo film metterò delle idee o posso capire delle idee. Anch'io ho pianto, tutti nel buio della sala hanno pianto. La vita alla fine fa riconciliare con tutta quell'emozione. Al King. Al King, hai visto? Questo è un altro che era visto. A Catania. Sì. No, sono contento. Guarda, è un film al femminile. Scritto con la mia compagna, con Valentina Ferla. Mi avrei fatto una bella domanda su allora, lei. Aspetta, non ho detto niente. Allora, King, ti pare che non ricordo la musa ispiratrice di tutto questo? E quindi, no, perché fa parte della mia vita, poi, insomma. No, insomma, in tutti i sensi. Si può aprire un... A che ora finisce il blog? A 40 giorni, ringrazio. Io ogni tanto mi interfaccio con Alessandro, che ringrazio come sempre, mentre quell'altro signore che si alterna con te, Valerio, mi sembra che si chiami, l'altro tecnico del suono che viene solo quando la Roma gioca fuori casa. E allora, perché io dico a Roma, allora non viene, capito? Cioè, se la Roma gioca fuori casa non viene. No, se gioca in casa non viene, perché va allo stadio. Ah, ho capito. Come spero che poi uno fa degli ascolti. Ma io non vado più allo stadio, mi fa cagare lo stadio, ormai guarda. Lo vedi che sei attore. Comincio ad avere proprio dei problemi con lo stadio. Se te sentissi così per telefono non ti riconoscerei mai. Non ci credo, dai. Ecco, vedi, questa è la voce, questa è Voice Anatomy. La voce è utilizzata con un'altra impressione, cioè proprio, e ti sta pure bene in faccia sta voce un po' così. No, devo ringraziare questo che mi sta vicino, che mi sta dando una mano. Chi è? Questo. Ah, cioè, vabbè, siamo due. Non sta siamo bene. Bipolari. Ivano non sta bene. Io un amico lo conosco da tanti anni per motivi sportivi eccetera, ma stava sempre, girava con qua la telecamera in mano, sempre questi docu-fiction, sempre quello fissato. M'ha aiutato. E io ho visto una delle cose, questo ho detto tra stelle vivere gli odori, i sapori. Barricate San Callisto, un corto, un, no, documentario, un documentario, non è corto, che io ho firmato pure da te, ce l'ho a casa. Un documento ormai. È un documento. Io lo chiamo documento. È bello, ma non esce ufficialmente in DVD? Ma guarda, no? Io l'ho fatto da solo. Ho fatto le copie DVD e vendevo, anche perché... Quello dovresti darlo di io. Di necessità virtù, insomma, lo stavo dico... bianco, mi sono venduto. Esatto, lo dico anche forte. Era mio. Lo dico anche forte, che non è pubblicità. Feltrinelli fa una collana, che è questo Real Cinema, che sono biografie eccetera. Io lo presenterei se fossi in te, anzi lo presenterò io invece tua, perché ogni tanto mi piace farti da produttore. Ma tu già mai fatto da produttore? No, vabbè, ti ho solo accompagnato in un momento difficile, una riuscita di quel film, e ne parleremo anche adesso, ma no, non voglio apparire in questo. Però quello, Barricata San Callisto, racconta uno spaccato di vita che non c'è più. San Callisto è il bar, è la zona di Trastevere, le persone lì, cioè, c'è tutto. Guarda, cioè... io dicevo prima, vabbè, scherzavo, no, nel senso che l'ho venduto davvero, però sì, ma sì. Non era perché avessi necessità, nel senso che volevo vendere, era che naturalmente la richiesta era diventata tante, quindi io dovevo rifarli. Io ho voluto raccontare, prima che lo facesse qualcun altro, un posto, no? Che è un bar dove io sto sempre, quindi pubblicità occulta, il bar San Callisto, dove conoscono pure i porci. Sì. E quindi vengono a fare foto al bar. Quindi. Sì, sì, invece al Colosseo fanno le foto alla scritta. Io dico, ma che a fotografia? La scritta è pure brutta, tutta zozza. Insomma, c'è sto bar a Trastevere. Io attraverso questo bar ho voluto raccontare proprio il cambiamento del tessuto sociale di un rione, Trastevere, ma attraverso quattro stagioni, attraverso 15 anni di tempo. Quindi come cambia proprio, come cambiamo noi le mode e il modo di vivere, no? E quindi è un po' nostalgico, perché come sempre io sono un po' nostalgico. Ma chi lo dice? C'ho una nostalgia dentro che madonna, a certe volte mi guardo e mi metto a piangere da solo. Sì, mi faccio pena, mi viene la tristezza, quindi gli specchi ci do passate lato, perché come mi guardo mi viene da piangere. E quindi faccio questi lavori un po' così romantici, ecco, no, dai, cioè, non nostalgico. Comunque San Callisto, questa Barricata San Callisto, comunque sei su YouTube, ce l'ho buttato. No, se no, vuoi, no, quello si prende, se stampa col libro vicino. Questo sarebbe bello sentire l'accento sano di Ivano De Matteo, grande stima per un regista così sensibile con gli attori. Mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Un'altra, Lavinia, attrice da Roma. Vabbè, è bello. Figo, ma guarda, a me quando mi chiamano, perché poi certe volte non è che io sono cattivo, è che talmente dovrei fare una soppopera lunga di che mi chiamano. Io non, l'una cosa che voglio dire, magari la posso dire in diretta, non ho mai fatto lavorare qualcuno per simpatia. Guarda, per dovevo essere il protagonista della vita tua, no, perché siamo amici da 30 anni. Ma no, io sono lo testimone, dico, è vero. Testimone di questo. Cioè, io mio figlio, esatto, lo dico, faccio anche degli esempi. Uno dice, mio figlio Lupo, che aveva 10 anni, ha fatto 3 provini per fare gli equilibristi. Il produttore a un certo punto, bravo, Marco, mi ha chiamato. Però l'ha fatto tuo figlio il film, è bravissimo. 3 provini, che io capivo che mi piaceva per il ruolo, che era giusto, scritto su lui. E ho detto, non sono ancora convinto. Il produttore mi ha detto, sai che te dica adesso? Lui lo fa, perché io sono il produttore, fa il film lui, perché è giusto, va bene. Ma io ho detto no, perché poi pensano che è mio figlio. E si è fatto... È vero, me l'ha detto Alessia guardando il film, sì. Ha detto, ma il figlio di Ivano, e anche sui nostri ragazzi, quello che viene colpito con la pistola all'inizio, sì, è mio figlio. Usavo, in quest'ultimo doveva essere lui, ma lui ormai c'ha 15 anni, è cresciuto, quindi cercavo qualcuno simile a lui, perché chiaramente come la mia compagna, sì, parliamo, i bambini, i ragazzini ci rifacciamo un po' a quelli che c'è dentro casa, sì, quello, certo, più vicino, e quindi cercavamo uno simile. Guarda caso, Andrea Pittorino, quando è venuto a fare il provino, il primo ragazzino che è entrato su, erano 70-80, già gli assomigliava. No, lui è entrato, è stato il primo, dico madonna, sembra mio figlio. Assomiglia anche, diciamo, di viso a Margherita Bui. Poi è entrata la madre e ti ha detto, a Ivano, ti ricordi quella notte che passammo? No, non è vero. Dai. No, comunque assomiglia davvero a lui. E poi insomma è stato lui che si è preso il ruolo e sono stato contento. Ma no, tu sei meritocratico. Dovrebbero essere tutti così. Sta nazione si salverebbe. Purtroppo comunque ho perso anche lavori perché mi avevano proposto cose e ho preferito dire no. Ho perso i soldi. Infatti ho i mutui, ma lo dico sempre, c'ho il mutuo. Ma perché sono contento di avercelo. Bisogna saper dirlo. No, e sapere dire no non è facile e non è sono da tutti. Sono contento avercelo, però... Compreso me, non sono così capace, tu sei capace, io lo so. Noi stiamo andando in pubblicità per l'ultimo blocco insieme, vero? E così parleremo della tua musa ispiratrice, va bene? A tra grazie pochissimo con Ivano De Matteo. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori, Voice Anatomy è l'ultimo blocco insieme prima di passare la linea allo sport con tutti i convocati. Ancora vicino a me Ivano De Matteo, devo dire che è stata una puntata veramente intensa, però prima di chiuderla io mi sono tenuto per ultimo, no, il fulcro, la donna, che è la donna senza la quale nessuno potrebbe vivere, nessuno escluso, ma tu ancora meno, perché Valentina Ferlan è la tua autrice, sceneggiatrice, musa ispiratrice, compagna di vita, madre dei tuoi figli. E lì chi non c'è... più ne ha, più ne metta. E quella è fortuna, no? Fortuna e bravura di aver scelto una persona così. Lei ha scelto te, tu hai scelto lei. E non è raccomandazione anche in questo. Guarda, no. Ma vi siete incontrati... casualmente al bar a San Callisto. Oh, vedi che San Callisto è... ma lei è Trieste, chiaramente è Ferlan. Non è di Trastevere, quindi è di Trieste. Sì, sì. È una mula di Trieste. Per cui stava in vacanza. No, è venuta poi con i genitori. Era venuta qui 15 anni, quindi poi l'ho conosciuta, ma devo dire che non sono stato fortunato. Se dovessi usare un termine romano direi un'altra cosa. Ciuto culo. E diciamo, tanto a noi ci ha sdoganato la zanzara Cruciani, ma sdoganato. No, nel senso che comunque io probabilmente se non avessi conosciuto, vabbè, la vita poi è strana, magari sarei diventato, che ne so, un fisico nucleare, perché a 23 anni ritornavo a scuola, ma andavo a lavorare, io non sono arrivato manco a qui, cioè nel senso, io poi ero un po' sbroccato. No, insomma, ero abbastanza, come dire, svelto. Bravo, non trovavo l'aggettivo. Esatto. Ero irrequieto, quindi l'incontro con lei, insomma, ha cambiato. Io ringrazio lei, lo dico sinceramente. Poi abbiamo fatto tutto il nostro percorso insieme, sono 27 anni che stiamo insieme. 27. Che bella cosa. Quindi lei, abbiamo iniziato col teatro insieme, lei mi ha fatto conoscere il teatro, mi ha fatto conoscere i libri, mi ha fatto conoscere una serie di cose e poi quindi ce ne siamo andati, lei se n'è andata da casa a 19 anni e io a 23 e abbiamo cominciato sta vita insieme, nel senso, come col teatro, io c'avevo un teatrino sotto la frutteria di mio padre, quindi mi sono diplomato, ho fatto la prima, io ho iniziato come attore, quindi per strada mi hanno preso, la solita cosa, ma è vera, sì, certo. Sono accompagnato un amico mio a fare una comparsa e mi hanno preso per fare una serie televisiva nel 91. Che cos'era? Che si chiama Eurocops. Il direttore della fotografia era il grande Pasqualino De Santis. Mi ha detto: Ivan, tu devi continuare, mi chiama Marlon Brando, perché all'epoca c'avevo i capelli, li portavo con la brillantina dietro, devi continuare. E io lì mi sono iscritto a una scuola di teatro. Mi ha detto: e feci la scuola di Perla Peragallo, la donna di Leo De Berardinis. E quindi ho iniziato dal teatro, ma ero Dottor Jack e Mr. Rider, che io lì facevo addizione e parlavo tutto con... ho iniziato con la Divina Commedia io. Poi tornavo al bar e quindi al bar dico: ma come parli, ma poeta e cose tutte. E allora io dicevo: oddio, c'è crisi di identità. E me ne sono portate dietro. Degli amici che ti dicevano: io lo dicevo, capito? Allora tornavo a casa e dico: aspetta un attimo. Quindi insomma, quindi ho fatto tutto il percorso, quindi ho fatto il mio teatro, abbiamo fatto la compagnia teatrale Il Cantiere, perché mio padre lavorava al cantiere. Poi al cantiere ha lasciato perdere, ha aperto una frutteria, quindi io di notte andavo alle 4 di mattina, caricavo la roba ai mercati generali, facevo la mostra e sotto io ho fatto levare la cella del frigorifero a mio padre, ho fatto mente sopra e sotto nacque il cantiere, quindi avevo il teatrino lì. Sotto a sta cantina e ho fatto il teatro off e lì ho iniziato, quindi i miei primi spettacoli, poi da lì il teatro Colosseo, quindi ringrazio Ulisse e Benedetti del Bit 72 che ho iniziato la carriera, diciamo, teatrale con la nostra piccola compagnia. Poi i documentari, quindi sono passato ai documentari con Prigionieri di una fede, che fece il documentario sugli Ultras. Poi da lì Barica da San Cristo, Codice a Sbarre, poi il cinema piano piano, e questa è stata la nostra carriera che abbiamo fatto a braccetto con Valentina. Dico che la ringrazio perché siamo due stampelle, adesso io ce n'ho due, noi siamo una che si attacca all'altra. Ma che bella cosa, vedi? Perché io, lei ha aiutato tanto a me, io avrò aiutato sicuramente tanto a lei, quindi insieme siamo diventati una gamba unica. Hai dato corpo a quelle parole e soprattutto perché insieme. Secondo me se non ci stava, se non avessi fatto questo, ti ho detto, potevo fare fisico nucleare, ma potevo fare pure qualche altra cosa. Sì, da quello che hai raccontato c'era il rischio di uno sliding door, veramente difficile. Perché tanti non sono stati fortunati quanto lo sappiamo, me. Li conosciamo. Gente, amici miei, che purtroppo non sono stati fortunati, alcuni stanno ancora in vita, ma non fortunati, altri purtroppo non ci stanno manco più. Non più. E l'hai raccontato anche in Prigionieri di una fede. Io quella è una serie che farei... che farei uscire, ma tanto col successo del tuo cinema ho provato, vediamo se esce qualcuno, io la sto proponendo, un'idea, c'ho l'idea, però vediamo se no, ci penso io sono un bravo venditore, sono molto più bravo di te in questo, io posso vendere la cosa di un altro, ma io se mi dicete faccio schifo, dico a me lasciami perdere, che è meglio perdermi che acquistarmi, se devo fare qualcosa per un altro io mi sono sempre venduto oro. Esatto. Io sono a merda. No, io ho sempre venduto me stesso da solo, quelli sono i limiti di chi si vende da solo, ma poi riesco a vendere gli altri ancora meglio, per cui formo pure i venditori, per cui penso un po'. Dovrei fare una scuola di questo. Ci sta, qui sono poi viene stupido, fa un tutorial Frank Merenda, che è il più grande formatore di venditori che abbiamo in Italia. Senti, io questo, siamo arrivati alla fine più o meno, cioè, abbiamo ancora a 55, per cui 3 minuti e mezzo, c'è Capuano, no, non facciamo in tempo, però lo saluto. e lo ringrazio. Ivano, la vita posso possibile. Posso dire tre cinema che c'è sta Roma? Assolutamente sì, ma va in tutta Italia qui, eh. È perché non mi ricordo tutti gli altri. Ah, no, certo. Nel senso, a Milano, a Roma sta all'Eden, al Maestoso e alle Urcine. Mo dico quelli mi ricordo. A Milano all'Apollo, a Torino all'Ambrosio e all'Eliseo e poi gli altri nomi, al King a Catania, perché King l'abbiamo a Catania, detto. Abbiamo detto. E cioè, insomma, una ventina di sale ci stanno, quindi per i domani, insomma, sono quelli che mi ricordo bene i cinema, so Eden, Maestoso e Urcine. Io lo supporterei. Supporterei, bellissimo qui. Caro Pino, caro Ivano, finalmente la parola culo per radio, democratico. Un culo ce l'hanno tutti e non è brutto. Amico di Benedico, vi benedico. Francesco, vedi? Ma che bello. Ma no, sono messaggi, devo dire che il pubblico di Radio 24 fa veramente cuore. Mi dice qualcosa Alessia Navarro? Vuoi che chiuda? Sì. L'ultimo suo pensiero, allora lo lascio a lui il pensiero. Sì, a parte le fiction, tu no, non le fai. Vivo al cinema. Di regia. Ma no, ma me le propongono. Spero un giorno di trovarne una che mi piace. Fare. Qual è la tua vita possibile? Ma questa, ma che voglio di più? Ma che voglio di più? Lascia perdere due stampelle, c'ho la salute, c'ho due ragazzini, c'ho una casetta, ma che cazzo voglio di più? Esatto, niente. Mi è rimasto uno sputo di vita, ma mo gioco bene. Uno sputo, Ivano! C'è 57, ma sei un pazzo! Non sto una paura. Non invitate più sta gente. Questo tripolarismo non deve appartenere. Vabbè, ma nel senso buono, dai. Ma sicuramente io sto sì. Bene, sto con questa, per me la vita possibile è questa, è poco. Poco che sto bene. Però è giusto. Stai preparando un altro film, Ivano? O se, come te lo dico, a Roma sì. Sì. In Italia com'è? Sì. Famiglia? E te credo. Crisi? E te credo. C'è un 57enne in crisi bello come il sole? L'ho scritto per te. Allora no, perché tu sei così disgraziato che farai i provini per trovare gente che mi assomiglia. Come no, che prendi quello che assomiglia a tuo figlio che non è tuo figlio. Posso fare un aneddoto che ci riguarda, non lo so. Io sono andato a fare un provino per un film. Va bene? Sei andato a fare pure te? E t'hanno presa a te? Sì, e t'hanno presa a te, a me no. Qual quindi era? Arrivederci e grazie. Qual era? Lo volevo dire. Ho fatto due film di me. C'avevi in baffo tagliato. Addio la vita, dalla vita in no, poi. E quello l'ho fatto io, il problema. Meglio te. Ha fatto te però, vedi. Ma perché conoscevo il regista? Ah! No. No, non so neanche ma cosa sapevo. Ma di meglio te. Ma caro ho litigato con per me il cinema con De Matteo finisce qui. Ma anche la trasmissione. Ma chiudiamo con Scilli Bassi, un minuto c'è sotto. Lasciala sotto. La vita possibile. Magara. Regia di Ivano De Matteo, film straordinario. Riguardate gli altri, a bella gente, i nostri ragazzi, gli equilibristi. A domenica prossima. Grazie. Vi funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life?